un tema che, di cui si parlava molto spesso col professor Leinert, quasi da anni, ecco, perché è un tema estremamente specifico e delimitato, ma che può avere una ripercussione e un interesse, noi abbiamo pensato, molto elevato, proprio per l'inizio, e non credo sia possibile trovare un tema migliore di una comune riflessione su tanti problemi che sono nati dopo la prima guerra mondiale. Finora quasi tutte le attività del nostro istituto si fermano proprio alla prima guerra mondiale. E credo che anche questo sia proprio opportuno, sia stato opportuno, particolarmente incominciando il lavoro insieme con i colleghi tedeschi in questo istituto e con i colleghi austriaci. E credo anche che a poco maturi la opportunità di riflettere anche su problemi, diciamo così, più recenti, ecco, nella misura in cui è possibile farlo con la piena intesa, con la piena coscienza di non essere fraintesi nei nostri dialoghi. E il professor Reiner mi pare che ci dia la garanzia proprio personificata di questa capacità di parlare in modo così, non dico solo oggettivo, insomma, ecco, ma partecipato da tutte le parti, in senso non parziale, di questi problemi. Il professor Reiner è vissuto anche a lungo a Roma, scientificamente non ha certo bisogno di presentazione, è ordinario di storia austriaca all'Università di Innsbruck, e i suoi studi vanno dalle Nunziatur Berichte e dai problemi dell'edizione delle fonti, appunto, della diplomazia pontificia, e cosa che ha richiesto lunghi soggiorni a Roma, e Roma l'ho anche visto come docente a lungo a Roma, e fino a interessi invece più immediati, più legati a temi di attualità. Non mi rimane quindi che dare la parola al professor Reiner. Lo schema è questo, la relazione, si farà una breve pausa, poi la discussione e spero una colazione con lui. Mi rimane l'ultimo gradito compito di dire adesioni e in particolare il presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, onorevole Kessler, che mi ha telefonato ieri sera dicendo che era spiacente, ma la situazione, diciamo così, particolare in cui versa il governo della provincia di Trento in questi giorni. Sì, ho letto e sentito. Sì. Rende comprensibile questo. Altre lettere di adesione sono da parte di alcuni direttori d'archivio, come il direttore dell'archivio di Stato di Reggio Emilia, il direttore dell'archivio di Stato di Mantova, poi c'è il sindaco di Rovereto e anche altri, insomma, testimoniano un interesse, ecco, che va anche al di là dei presenti. Tutti grazie, quindi la parola al professor Tagno. Ringrazio ovviamente per la sua presentazione, troppo gentile da me. Signore e signori, io ho preparato questa conferenza in tedesco e in italiano. Io non so, posso parlare in tedesco, in italiano, forse più utile in italiano. Io chiedo la scusa per mia imperfetta conoscenza dell'italiano, ma cercherò il meglio, sì. Dunque, il recupero dei beni culturali italiani dall'Austria dopo la prima guerra mondiale. Come introduzione, l'anno scorso la UNESCO, la sezione dell'ONU competente per la cultura e l'educazione con sede a Parigi, ha deciso che gli oggetti artistici e culturali stranieri dovrebbero essere restituiti ai loro paesi di origine. Fu costituita un'apposita commissione che iniziò la sua attività nella primavera del 1980. Se questa delibera fosse realizzata, i musei etnologici europei, compreso il Museo delle Missioni Pontifici, sarebbero quasi svuotati. Ma anche le grandi collezioni archeologiche e di storia dell'arte dovrebbero restituire una parte dei loro tesori che essi possiedono da generazioni e che perciò spesse volte sono state salvate dalla distruzione. A ciò si aggiunge il problema verso dove e a favore di chi ha la priorità, il principio della territorialità o della personalità. Le opere d'arte della cultura greca, bizantina, come per esempio l'altare di Bergamo a Berlino o la quadriga a Venezia, devono essere restituiti ai turchi di Bergamo o Istanbul. Viceversa, con applicazione rigorosa del principio della personalità, i numerosi reperti archeologici dell'epoca romana in Germania ed in Austria dovrebbero essere restituiti a Roma. Questi esempi fanno nascere l'ipotesi che questo problema non sarà mai risolto, o almeno non in un prossimo futuro. Le forze portanti di questa azione dell'UNESCO sono i giovani stati nazionali, i cui beni culturali sono custoditi effettivamente in gran parte nei musei dell'Europa e dell'America settentrionale. Secondo una stima dell'UNESCO, essi custodiscono circa 25 ai 30 milioni di oggetti d'arte provenienti da culture straniere. A cavallo tra il XIX e XX secolo l'Italia si trovò in una situazione quasi analoga. L'unità era, con il 1919, completamente raggiunta. Vi furono singoli patrioti che credevano di poter aumentare lo splendor patrie mediante il recupero dei beni culturali custoditi all'estero. In questo contesto dovrei nominare in primo luogo Alessandro Luzio, un ardente patriota che credeva di dover difendere l'onore della patria non soltanto contro l'esterno, ma anche contro i socialisti e massoni italiani. E così si sa che Luzio ha fatto anche parecchi duelli contro socialisti e massoni, perché erano poco patrioti, secondo il gusto di Luzio. E io non so che è vero, ma ho sentito una volta già che questo Alessandro Luzio era un figlio naturale, si può dire, di Vittorio Emanuele II, non lo so, ma questa è anche una leggenda su quest'uomo, ma un patriota ardente, come ho detto. Da prima egli svolse attività giornalistica in Italia e dal 1893 al 1898 egli fu corrispondente estero del Corriere della Sera e della Gazzetta di Torino a Vienna. Lui era costretto di lasciare la patria per uno di questi duelli e così ha preferito di andare a Vienna come corrispondente estero. E dopo il suo rientro in patria, egli fu nominato direttore dell'Archivio di Stato di Mantova e infine nel 1918 soprintendente a Torino. Qui a Vienna era anche il fondatore di un Circolo Italia, contro questi austriaci che hanno fatto dimostrazioni in occasione del 25esimo annuale della caduta di Roma, in favore del Papa naturalmente. Lui ha iniziato un'attività patriota italiana a Vienna con questo circolo Italia. Stimolato dal suo soggiorno viennese, egli si occupò delle relazioni italo-austriache e pubblicò diversi lavori, libri in questo campo, in particolare su Radetzky, sui martiri di Belfiore e sugli arazzi raffaeleschi del Palazzo Ducale di Mantova che erano stati portati a Vienna. Egli diventò una delle forze portanti per il recupero di beni culturali italiani dall'Austria. C'è da menzionare anche il trentino Giuseppe Gerola, che dopo aver compiuto i suoi studi a Padova, a Firenze, anche a Berlino e Friburgo, entrò nel servizio dei musei italiani e diresse dal 1920 i musei e la soprintendenza ai monumenti nel Trentino. Già durante la prima guerra mondiale, egli fu del parere che i beni culturali dovevano rimanere là dove la storia li aveva collocati e che essi non dovevano essere rimossi né tramite donazioni, né acquisizioni, interventi statali, rapine e cose simili. Con l'esempio di Trento, egli dimostrò che dei beni italiani non furono portati soltanto a Innsbruck e a Vienna, ma anche in Germania, per esempio nel Museo Germanico, il famoso Germanisches Museum di Norimberga. Perciò il loro recupero non doveva limitarsi soltanto all'Austria. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, questo parere diventò sempre di più una posizione ufficiale dell'Italia, e cioè che durante il regno degli Asburgo i beni culturali italiani erano stati portati illegittimamente in Austria e che ora dovevano essere restituiti. Questa posizione fu mantenuta anche se, a suo tempo, l'acquisizione era avvenuta indubbiamente in modo legale, sia tramite donazione, sia tramite cambio o acquisto, come nel caso dei famosi codici musicali trentini, che furono comprato dal governo austriaco, dal capitolo di Trento, col consenso del vescovo di Trento, tutto era a posto. Si sosteneva che l'onore della patria richiedesse che dopo la vittoria delle armi l'Italia pretendesse dall'Austria anche una riparazione dei danni subiti in campo culturale e che facesse dei passi in questo senso. Questi beni culturali, la cui restituzione si chiedeva, comprendevano materiale archeologico, quadri, sculture, monete, codici preziosi, biblioteche e materiale dell'archivio, e possono essere suddivisi in due gruppi. Primo, i beni culturali portati in Austria in forma completamente legittima durante il XVIII e il XIX secolo, e secondo, i beni sequestrati per motivi di sicurezza dalle autorità austro-ungariche o saccheggiate da singoli militari durante la Prima Guerra Mondiale. A onore degli Asburgo, che per 200 anni dominarono su una grande parte dell'Italia, occorre dire che durante questo periodo le opere d'arte o i monumenti storici italiani normalmente furono portati in Austria in modo formalmente legittimo o per proteggerli contro i danni della guerra. Da parte italiana, questa legittima acquisizione, come per esempio dei preziosi codici di Napoli sotto Carlo VI e dei codici musicali di Trento nel 1891 ancora, non fu riconosciuta adesso come formalmente legittima, ma fu fatto valere il diritto superiore del popolo italiano sul patrimonio culturale. Subito dopo l'entrata in guerra dell'Italia cominciarono gli sforzi in questa direzione. Il 30 agosto 1915 il direttore dell'Archivio Reale di Mantova, il già ben noto Alessandro Luzio, presentò una petizione al Ministero degli Affari Esteri riguardante gli arazzi raffaeleschi di Mantova, sottolineando che nel 1866 questi ultimi erano stati portati illegittimamente a Vienna e non erano stati restituiti nonostante le ripetute richieste da parte italiana. Dopo la vittoria, secondo Luzio, occorreva realizzare anche questo diritto nazionale. Al Ministero degli Esteri la petizione di Luzio ricevette l'annotazione mettere nella posizione della pace. Non più tardi del 1915 iniziarono anche gli sforzi per il recupero del Palazzo Venezia a Roma. Allora la sede dell'ambasciata austro-ungarica presso la Santa Sede, messa sotto la protezione dell'ambasciatore spagnolo presso il Vaticano dall'entrata in guerra dell'Italia. In Parlamento a Roma si parlò di nostro patrimonio rapinato dall'Austria e si avanzò con grande applauso la richiesta di confermare e ratificare la coraggiosa delibera della Costituente romana del 27 marzo 1849, con la quale si restituiva il Palazzo Venezia al popolo veneziano e di conseguenza al Regno d'Italia. Nonostante che il Ministero degli Esteri ritenesse inopportuno un sequestro del Palazzo di Venezia come sede dell'ambasciata, si giunse infine ad un esproprio del Palazzo Venezia a Roma. Il Cardinale Segretario di Stato fece una nota di protesta contro il diritto. L'Assemblea Generale del Grande Oriente a São Paulo in Brasile invece si felicitò con questa decisione da parte italiana che salvaguardava gli interessi della libertà e della cultura umana contro l'oscurantismo. Le prime richieste di restituzione dopo la fine della guerra furono fatte valere a Innsbruck. Poche settimane dopo la fine della guerra, sotto la protezione delle truppe italiane di occupazione, l'ispettore generale degli archivi italiani, Giovanni Battista Rossano, la rivista degli archivi di Stato di Venezia, Roberto Cessi, l'ex capitano del distretto di Rovereto, Carl Theodor Postinger, prima era un funzionario austriaco, e Giuseppe Gerola, incominciarono a perquisire l'archivio regionale del Tirolo e i manoscritti della Biblioteca Universitaria di Innsbruck per trovare del materiale proveniente dal Trentino o riguardante quest'ultimo, sotto la protesta dei funzionari, naturalmente, dell'archivio e della biblioteca a Innsbruck. Il risultato era, in seguito, il comandante della sesta divisione di fanteria di stanza a Innsbruck chiese di consegnare agli incaricati del comando italiano, questi erano i signori prima nominati, il seguente materiale d'archivio. Primo, materiale d'archivio riguardante i conventi e le corporazioni sciolti nel Trentino. Secondo, l'archivio dell'antico principato vescovile di Trento. Terzo, i verbali della dieta trentina. Quarto, i cosiddetti atti di Mantua. Questi atti di Mantua erano gli atti dell'imperiale reale della delegazione di Mantua da 1815 al 1866. Le autorità tirolesi tentarono di impedire la consegna o di rinviarla almeno, anche con l'osservazione che gli atti e il materiale d'archivio possono essere consegnati soltanto dopo la cessione di un territorio e mediante un contratto giuridicamente valido, e non con forze militari. Ma il 23 gennaio e il 7 aprile 1919, prima della conclusione delle trattative di pace, fu consegnato tutto il materiale d'archivio riguardante l'amministrazione politica e giudiziaria del Trentino e i cosiddetti atti di Mantova. Il 19 dicembre e il 15 novembre 1921 seguì il materiale dell'archivio riguardante l'Alto Adige tedesco. Una delle richieste di restituzione più importanti riguardava i 9 arazzi raffaeleschi con scene degli Atti degli Apostoli. Di essi erano stati eseguiti su disegni di Raffaello Sanzio due serie, di cui una fu conservata in Vaticano e l'altra nel Palazzo Ducale di Mantova, da dove nel 1866, durante la guerra, erano stati portati a Vienna. Quando nel dicembre del 1918 fu mandata una commissione militare a Vienna, essa ebbe anche l'incarico di individuare le opere d'arte che l'Austria aveva portato via dall'Italia per recuperarli nelle trattative di pace. Il suo comandante, il generale Segre, svolse questo compito con un zelo particolare. La sua considerazione era quella che l'Italia doveva riportare in patria i suoi monumenti culturali prima che gli altri alleati mandassero i loro rappresentanti a Vienna e prima che gli stati successori si consolidassero. Occorreva sfruttare subito la posizione favorevole del vincitore che giungeva come primo nella capitale nemica, non soltanto nei confronti dell'Austria tedesca ridotta all'impotenza, ma anche nei confronti degli stati successori, vuol dire Jugoslavia, Cecoslovacchia, Romania, Polonia ed altri, di riprendersi subito gli oggetti pretesi dall'Italia, dall'eredità della doppia monarchia, sottraendoli alle trattative. L'affare più urgente erano gli arazzi raffaeleschi di Mantua, la cui consegna fu ottenuta da Segre già all'inizio di febbraio 19, dopo che egli aveva posto un ultimatum con la minaccia di farli ritirare dai carabinieri, cosa che esorbitava dalle istruzioni ricevute. Mentre il generale Segre intraprese di propria iniziativa e con successo il recupero degli arazzi raffaeleschi, fu costituita di comune accordo tra il Comando Supremo e il Ministero della Pubblica Istruzione la Commissione Italiana per i Beni Artistici, alla quale fu assegnata una sottocommissione per gli archivi. La Commissione doveva dedicarsi in primo luogo all'individuazione di quei monumenti artistici che erano stati i primi ad essere portati via durante la guerra dai territori vicino al fronte. Per questo compito la Commissione aveva già una documentazione, in quanto subito dopo l'armistizio il Comando Supremo Italiano fece fare delle indagini nei territori liberati di Venezia, Friuli e Belluno sui monumenti culturali che durante la guerra erano stati rimossi, danneggiati o distrutti. Le autorità competenti avevano inoltre ricevuto numerose denunce di oggetti d'arte portati via effettivamente o presumibilmente dagli austriaci, la cui restituzione fu richiesta. Presto la Commissione si occupò però anche delle pretese già avanzate in precedenza dall'Italia che, come dimostrato nel caso degli arazzi di Mantova, erano già da tempo state raccolte e in parte anche presentate da singole persone di idee nazionaliste. Le richieste italiane furono infine suddivise nei seguenti 5 gruppi. Prima, restituzione dei beni culturali portati via dalle province italiane occupate nel 1917-18 da truppe nemiche. Questi comprendevano anche le 512 casse, grandi casse di libri ritrovate nelle cantine dell'Università di Vienna, che all'inizio del 1918 erano stati portati via dalla zona di guerra e che già nel gennaio 1919 poterono essere riportati in Italia, dove furono custoditi provvisoriamente nella biblioteca dell'Università di Padova. Si trattava delle biblioteche del seminario e del comune di Belluno, della collezione da Borso di Belluno, dell'archivio e della biblioteca dei conti Miari Fulcis di Belluno, delle biblioteche Solero di Pieve di Cadore e Gianni di Domeggio e della biblioteca contenuta in 200 casse del professore Giovanni Puzzatti, molto importante per la storia di Belluno. Queste furono riportate già nel gennaio 19. Dal Friuli erano stati portati via per motivi di sicurezza beni culturali prima dalle autorità italiane e poi nell'ultimo anno di guerra da quelle austro-ungariche, quando, dopo la ritirata turbolenta degli italiani dalle Sonze verso il Piave, il caos si era un po' calmata, gli austriaci incominciarono a mettere al sicuro i beni culturali e di inviare gli oggetti particolarmente preziosi a Vienna. Di questi oggetti la Commissione ritrovò e riportò in Italia i seguenti: statue di legno del Duomo di Venzona, la Madonna del Tiepolo della Chiesa della Purità di Udine, o oratorio meglio, la pala di Giovanni Antonio Pordenone di Moriago, due codici preziosi della Biblioteca Capitolare, cioè Arcivescovile di Udine, 26 casse del Museo Civico di Udine con i famosi medagliere e infine alcune campane di valore storico. Questo è il primo gruppo. Secondo gruppo, restituzione dei beni culturali portati via dall'inizio della guerra per motivi di sicurezza dai territori allora austriaci ed ora, dopo la guerra, italiani. Il recupero degli oggetti facendo parte di questo punto fu reso un po' più difficile agli italiani in quanto Vienna dichiarò competente per la cosa prima la conferenza degli ambasciatori e poi le trattative di pace, si può dire con ragione. Gli italiani non erano d'accordo e volevano dei fatti compiuti che al massimo potevano essere legalizzati dopo dalla conferenza della pace. Con l'aiuto fattivo del generale Segre, la Commissione riuscì a mandare in Italia i seguenti beni culturali. Più di 1000 pergamene del Museo Provinciale di Gorizia, i documenti dell'Archivio di Trieste, la collezione Petrarca della Biblioteca Comunale di Trieste, la collezione di monete del Museo di Trieste, campane di valore storico del Trentino, dell'Istria, della Venezia Giulia, il tesoro di San Giusto e di Gorizia. Gli oggetti citati furono ritrovati soprattutto a Vienna, ma anche a Linz, Salisburgo, Innsbruck, Graz e Lubiana. Mentre gli oggetti appena nominati, ad eccezione di quelli di Lubiana, perché i jugoslavi non hanno restituiti, cioè, giunsero in Italia nel marzo 1919, il tesoro di Aquileia, consistente in prezioso materiale archeologico come monete d'oro, gemme, gioielli e ambre, non fu in un primo momento ritrovato. Era stato portato all'inizio della guerra nella cantina del Museo di Corte a Vienna ed era scomparso dal 1917. Le lunghe ricerche che si estesero fino a Chernowitz, allora appartenente alla Romania, oggi alla Unione Sovietica, ebbe finalmente successo, in modo che anche questi oggetti preziosissimi potevano essere riportati al loro luogo d'origine Aquileia. Il terzo gruppo, pretese di restituzione storiche. Beni culturali la cui restituzione finora non avvenuta era già stata richiesta nelle trattative di pace del 1866. Oltre ai già menzionati arazzi raffaelleschi, la cui restituzione era già stata portata avanti con successo dal generale Segre prima dell'arrivo della commissione. Si trattava di circa 160 quadri che tra il 1816 e il 1838 erano stati trasportati da Venezia a Vienna. Originariamente questi erano collocati in diversi palazzi pubblici, scuole, congregazioni e conventi, sciolti nel frattempo. Nel 1811 furono consegnati dal viceré Eugène Beauharnais con un solenne decreto in parte all'Accademia delle Belle Arti di Venezia, in parte a diversi palazzi pubblici che all'epoca del Regno d'Italia erano palazzi reali. Nel 1816 una parte di questi quadri fu portata a Vienna, mentre ci si dava da fare per far restituire al loro luogo origine le altre opere d'arte portate via dai francesi, come la famosa quadriga di Venezia. E nel 1838 furono nuovamente tolti dei quadri dal patrimonio veneziano per le collezioni imperiali a Vienna. A questo gruppo appartenevano, secondo gli italiani, oltre ai reperti archeologici del Palazzo Venezia a Roma, fatto dagli austriaci, anche i beni culturali seguenti che negli anni 1802, 1805, 1829 e 1835 erano stati portati a Vienna dalla Biblioteca Marciana di Venezia, cioè sei preziosi incunabili, un volume dei diari di Marino Sanudo, una copia completa dell'opera intera di Sanudo, circa 50 autografi, 15 volumi di stampe musicali del XVI secolo e infine un busto dell'imperatore Francesco I di Canova. Beni culturali la cui restituzione non era stata richiesta nel 1866, ma che ora fu sollecitata, perché la prima parte fu già richiesta nel 1866, ma non restituita dall'Austria. Adesso di più si chiede beni culturali. Di questi facevano parte delle armi di valore storico, armature, piante e modelli che erano state portate via dalle arsenali di Venezia negli anni tra il 1864 e il 1866, ritratti di doge, il reliquiario del Pesario e la preziosa croce della scuola di San Teodoro, lavorata in cristallo di rocca ed argento, giunti entrambi a Vena dopo il 1821. Le insegne della coronazione di Napoleone I come re d'Italia, la collazione est che l'ultimo duca di Modena, Francesco V, aveva portato con sé nel 1859 in Austria, il tesoro della Toscana, il tesoro dei Medici, che era stato portato a Vienna verso la metà del XVIII secolo sotto Granduca Francesco Stefano e poi parzialmente venduta. Circa 100 preziosi manoscritti dalle biblioteche di alcuni conventi napoletani che nel 1718 erano stati consegnati più o meno volontariamente all'imperatore Carlo VI, allora re di Napoli. E infine gli oggetti che facevano parte del tesoro imperiale del Sacro Romano Impero realizzati nel XII secolo per i re normanni a Palermo. C. Restituzione dei beni culturali portati via già prima della Prima Guerra Mondiale dalle province allora austriache. Dalla biblioteca del Principato Vescovile di Trento, 6 codici musicali di cui aveva già parlato, un evangelario di Porpora del V secolo, un sacramentale del X secolo con legatura di Abore del IX secolo, oggetti d'arte, reperti archeologici che erano stati portati dal Trentino, dal Sud Tirolo e dall'Istria a Innsbruck e a Vienna. Questo gruppo era naturalmente più difficile e anche più valoroso, si può dire. E interessantissimo è per me che opere d'arte tanto, tanto valoroso, questo gruppo B di cui ho parlato, non furono richieste in occasione delle trattative di pace nel 1866. E dunque l'ultimo gruppo, materiale d'archivio. L'Italia aspirava alla consegna di tutto il materiale d'archivio concernente la sua storia o la sua amministrazione. Siccome l'Austria a suo tempo non aveva sempre ceduto tutto, furono avanzate e fatte valere delle richieste di data più antica. Questo riguardava soprattutto del materiale degli archivi di Venezia, come le relazioni degli ambasciatori veneti in Germania. Perché questa parte dell'archivio veneziano fu trasportata a Vienna prima del scoppiò la guerra del 1866 a Vienna, qui sono rimasti e non furono chiesti finora. Dunque sono questi dispacci, i famosi dispacci veneziani, e ancora oggi nell'archivio di Venezia hanno una segnatura vienese questi dispacci veneziani, dispacci dalla Germania veneziana. E dopo, il materiale dell'archivio di Milano, Parma, Mantova, fu richiesta naturalmente anche la restituzione degli archivi delle 9 province italiane come quelli dei principati vescovili di Bressanone e di Trento. Di particolare interesse furono inoltre gli atti dei processi politici riguardanti italiani e dei tribunali di guerra dal 1821 in poi. Soprattutto sono questi anche questi famosi atti di Mantova e dopo questi atti dei tribunali marziali durante la Prima Guerra Mondiale contro Battisti, Filci, eccetera, tutti questi patrioti. La restituzione dei beni culturali elencati sotto i punti 1, 2 e 4 avvenne di regola senza grandi difficoltà. se nella prima accettazione si era anche attribuita agli austriaci l'intenzione di aver portato via i beni culturali dalle zone di guerra non soltanto temporaneamente per motivi di sicurezza ma per sempre per tenerli a Vienna, col passare del tempo gli animi agitati si calmarono. Così gli italiani lasciarono in prestito, per esempio, questi famosi sei codici musicali trentini in Austria fino al 1933 per studi speciali fatti a Vienna. E il Museo Ferdinandeum a Innsbruck poteva tenersi per sempre degli oggetti da museo proveniente dal Sud Tirolo e anche dal Trentino, perché l'argomento fu riconosciuto che qui non abbiamo una istituzione statale o regionale, ma è un'associazione privata che è in possesso di tutto questo museo. Per esempio, di una pietra miliare romana proveniente da Inichen, San Candido, che si trovava in prestito al Ferdinandeum e che fu restituito nel 1924, gli italiani fecero offrire una copia per Innsbruck. Io vuol dire questo per dimostrare anche la buona volontà che comincia da ambe e due parti. Le richieste di restituzione elencate sotto il punto 3 erano le più difficili. I funzionari dei musei e degli archivi austriaci difesero con grande zelo, abilità e dedizione i beni culturali da loro custoditi, mentre i politici erano più disposti a cedere. E questo in onore degli archivisti e dei funzionari dei musei. Quando finalmente gli italiani, avvalendosi del diritto del più forte, vae victis, incominciarono a sequestrare e a portare via i codici, i quadri, una gran parte della popolazione si accitò e il problema divenne di pubblico dominio non soltanto in Austria ma anche all'estero. E così, per esempio, si è cominciato all'estero di parlare di fare internazionalizzare tutti i musei viennesi e non lasciare una parte agli italiani, all'altra. E soprattutto i jugoslavi erano adesso pronti di difendere questo tesoro culturale in Austria contro gli italiani. Come risposta, generale Segre fece stampare un opuscolo dal titolo «Perché l'Italia reclama oggi dall'Austria opere d'arte e di storia?», che però, su ordine del Comando Supremo, non venne messo in circolazione e dovette essere consegnato interamente al suo archivio. La Jugoslavia protestava in modo particolare contro i procedimenti da parte italiana, perché essa non voleva la diminuzione dell'eredità degli Asburgo, sulla quale essa stessa avanzava delle pretese, come i cecoslovacchi, i polacchi, ungheresi, romeni, eccetera. In considerazione di queste circostanze, l'Austria e l'Italia raggiunsero un compromesso che fu alla base dell'articolo 195 del Trattato di San Germano e che fu fissato in modo definitivo il 4 maggio 1920 a Vienna. La consegna del materiale d'archivio menzionato sotto il punto 5 era incominciato, come ci ha descritto prima, già nel gennaio 1919 a Innsbruck. Prima che hanno cominciato le trattative di pace, hanno portato via una parte di questo materiale d'archivio. Ma andava poi per lunghe. Soltanto il 6 aprile 1922 fu firmata una convenzione riguardante gli archivi tra l'Austria e l'Italia, che ebbe delle aggiunte in seguito all'ulteriore trattativa del 31 ottobre 1924 e fino al gennaio 1925 ancora. Vorrei ancora menzionare che nell'ambito di questa azione si fece anche il tentativo di ottenere altre restituzioni dall'Austria e di far valere dei diritti completamente infondati, e ciò fu dovuto in parte al clima anti-austriaco, ostile all'Austria, diffuso in Italia. Così, l'Università di Pavia, per esempio, chiese un risarcimento per una collezione di diamanti portata via, secondo quel che si diceva, nel 1859 da un soldato austriaco. Alcuni mesi dopo, ma il Ministero italiano della pubblica istruzione chiese di non dare seguito a questa richiesta in quanto mancava qualsiasi prova. Un altro esempio, e più pesante, riguardava il noto storico del diritto Pier Silverio Lecht, che tra altro chiese la restituzione dell'archivio di Gorizia, che sarebbe stato portato via dall'imperatore Massimiliano I, e che in realtà non era mai stato a Gorizia, ma a Lienz, nel Tirolo, da dove fu trasferito già nel 1500 a Innsbruck, dopo l'estinzione della casata dei conti di Gorizia, e più tardi in parte a Vienna e a Graz. Questo si potrebbe aspettare che Leicht ha saputo che i conti di Gorizia non mai hanno avuto la sede a Gorizia, ma hanno avuto la sede in Carinzia o nel Tirolo sempre. Il risultato dell'azione di recupero fu considerato in Italia come un grande successo e furono allestite due mostre rappresentative, una nel Palazzo Venezia a Roma e l'altra a Venezia, destinate ad un pubblico più vasto. Ciò non fu fatto soltanto per motivi storici o di storia dell'arte, ma anche per i motivi di politica statale, per il patriottismo italiano. In Austria molti erano dal principio addolorati per la perdita, ma col passare del tempo si affermò l'idea che si era riusciti a portare tutta l'azione a una conclusione accettabile per entrambe le parti. Da un lato l'Austria non aveva potuto tenere tutto ciò che una volta aveva posseduto, ma dall'altro neanche l'Italia non aveva ottenuto tutto ciò che desiderava. Soprattutto si era riusciti ad allontanare il piano menzionato all'inizio di coinvolgere il patrimonio culturale austriaco nella riparazione per i danni subiti l'Italia da parte dell'armata austriaca. Il tentativo fatto da parte austriaca di recuperare a sua volta qualche cosa dall'Italia non ebbe successo. Si trattava del tesoro d'argento di Salisburgo che, dopo la secolarizzazione del principato ecclesiastico avvenuta nel 1803, questo famoso Reichsdeputationshauptschluss, era stato portato via dal Granduca Ferdinando da Salisburgo prima a Würzburg e poi a Firenze, dove si trova tutt'oggi. E così il famoso tesoro d'argento dei arcivescovi, principi arcivescovi di Salisburgo, si trova adesso a Firenze, perché dopo la secolarizzazione di questo principato ecclesiastico, il Granduca di Toscana, divenuto Duca di Salisburgo, perché era costretto di lasciare la Toscana al Regno d'Italia. E dopo due anni era costretto di lasciare Salisburgo e fu trasferito a Würzburg come Duca di Würzburg e portato con sé il famoso tesoro d'argento di Salisburgo, e qualche anno dopo la fine dell'epoca napoleonica, lui ritornò a Firenze portando sempre con sé il famoso tesoro di Salisburgo, dove si trova tutt'oggi. Per concludere, vorrei aggiungere che ancora recentemente è stato scoperto del materiale storico molto prezioso in Cecoslovacchia, che aveva appartenuto alla famiglia Colalto in Friuli, dove era sparito durante la Prima Guerra Mondiale. Si tratta di 5 diplomi medievali, tra cui uno dell'imperatore Ottone III, io non posso dire precisamente, penso 994, in questo anno, nel primo millennio ancora, che sono stati trovati in Cecoslovacchia, dove vengono custoditi da poco nell'archivio di Stato. Si presume che questi documenti siano stati saccheggiati da un militare dell'armata austro-ungarica di lingua ceca o cecoslovacco, il quale li portò nella sua patria, dove sopravvissero ben custoditi agli avvenimenti sconvolgenti della Seconda Guerra Mondiale e ora sono accessibili a tutti in un archivio statale della Cecoslovacchia. Grazie. Grazie a nome di tutti il professor Reiner. Credo che non ci sia bisogno appunto di sottolineare quanto sia stato interessante, non solo appunto per problemi singoli, ma proprio diciamo come tipologia, come modello di problema che investe tutta l'umanità, credo, secondo la citazione dell'UNESCO fatta all'inizio in modo così pregnante. E allora sospendiamo per un quarto d'ora e poi cominciamo la discussione. Abbiamo qui il direttore dell'archivio di Innsbruck, Lofracht, Dr. Dörr, quindi abbiamo non solo storici ma protagonisti. Abbiamo il dottor Ortolani, che è diciamo l'altra parte qui da noi. Quindi mi pare che abbiamo tutti gli elementi per poter incominciare un dialogo amichevole in cui io sono semplicemente così l'arbitro alla sedia in una partita di tennis che speriamo sia vivace. Ecco. Aveva chiesto la parola il professor Corsini prima nell'intervallo, quindi gliela darei immediatamente. Se siete d'accordo, poi dopo facciamo proprio una discussione. I direttori degli archivi, io lascio ben volentieri la parola. Avendo la relazione, non siamo per ultimi. Vabbè, allora io comincio col domandare scusa in anticipo perché, non essendo una relazione, ma così degli interventi su spunti che ho colto, che mi sono appuntato nella interessante e anche vivace relazione del professor Reiner. E quello che dirò sarà inevitabilmente un poco slegato. Io concordo con questo senso messo in rilievo dal professor Reiner, in cui è stato questo rilievo che si è sentito più volte nella sua voce, delle difficoltà che si sono intrapposte in questa questione che avrebbe dovuto avere quasi, o direi esclusivamente, carattere di natura scientifica e di ricerca corrispondente ai fatti legali e giuridici precedentemente avvenuti, e nel clima dell'immediato dopoguerra non c'è nessun dubbio che si sono introdotti anche elementi di passionalità nazionale e elementi di quella passionalità che è sempre presente nel momento in cui una conflagrazione, specialmente come quella della Prima Guerra Mondiale, termina, avendo fra il resto dietro le spalle tutto un periodo intero di un mezzo secolo di contrasti più che tra i popoli, italiano e austriaco, però tra gli stati, per quello che è stato il processo di sentimentale di formazione dell'unità politico-territoriale in Italia. Qualcuno di questi, riflesso di questi sentimenti, di queste passionalità, si ritrova negli uomini che sono stati presenti nella vicenda, del recupero e della restituzione dei beni, io mi occupo soltanto dei beni archivistici, per il resto per le opere d'arte non conosco, è vero, non me ne sono mai occupato. E questi riflessi della passionalità, ripeto, si sentono in alcuni degli uomini che hanno avuto da parte italiana e poi anche da parte, è vero, austriaca e da parte tirolese, specialmente in spluchese, si sentono. E per esempio è stato nominato più volte qui il Gerola, e sicuramente il Gerola era un rappresentante proprio di quei sentimenti ai quali lo stesso professor Rainer ha accennato. Non dobbiamo però dimenticare che da parte italiana erano presenti anche degli uomini che vedevano il problema, vorrei dire, quasi esclusivamente sotto l'aspetto degli studi storici, vero? Sotto l'aspetto sereno, vero? Sereno, vero? Degli studi storici, e hanno affrontato. Dirò poi dove ho preso queste alcune notizie, anzi faccio subito una parentesi. Mi sono imbattuto in questo problema, non soltanto perché lei stesso una volta mi aveva domandato degli atti, dei processi, eccetera, ma mi sono imbattuto in due occasioni, una delle quali ritornerò poi dopo, perché è una fonte che va tenuta presente e va, vero, non va trascurata. Nella ricognizione, nella esplorazione di quel immenso materiale che esiste presso l'ufficio storico dello Stato Maggiore Esercito, era quello riguardante la prima armata, di cui era comandante il tenente generale Pecori Giraldi, che è stato poi primo governatore di Trento, e che per un certo periodo, adesso vi prego di scusare, improvviso, non ricordo esattamente forse le date, ma sicuramente fino al 1 agosto del 1919 aveva anche giurisdizione militare e per certi aspetti anche di natura, vero, civile, al di qua del Brennero era governatore militare e, come dirò poi, esercitava anche tutte le funzioni di governo, sia pure di governo provvisorio, perché per una delibera proprio agli inizi della guerra era stato istituito il segretariato generale per gli affari civili, vero, in subordine al comando supremo, con la precisa, nel decreto, la precisa indicazione che nelle zone via via liberate o occupate dall'esercito italiano, e poi anche perciò su chiamata degli stessi austriaci, vero, anche al di là del Brennero, nella valle dei Lini fino ad Innsbruck, esercitava però i pieni poteri di governo. Questo per dire subito che l'intervento dei militari ad Innsbruck non era soltanto l'intervento della forza militare, era un intervento militare giustificato però alle spalle da questa delega di poteri di governo, sia pure provvisori, da parte del Comando Supremo, e che è durato sicuramente fino al 1 agosto del 1919. Sono stati proprio i mesi determinanti, nel marzo specialmente, vero, in cui sono avvenuti questi recuperi. Bene, di questi uomini, dico, che si sono occupati della questione, oltre a Gerola, che aveva, vero, questi accenti, diciamo così, di una passionalità nazionale, sicuramente c'erano però uomini di estremo, di prima preparazione da un punto di vista scientifico e archivistico. Basterebbe ricordare, è stato già ricordato qui il professor Vero Roberto Cessi, che era allora direttore, mi pare, o dirigente dell'archivio a Venezia. E poi alla fine della vicenda insalata, perché questa vicenda si trascinò, sembra incredibile, ma fino al 1938. Gli ultimi atti li abbiamo nel 1938, quando poi l'Austria viene e la vennero occupata dalla Germania. Fu un'avvertenza molto lunga. E poi ricordo ancora, per parte nostra trentina, quella insigne figura di storico e di giurista che fu il Francesco Menestrina, al quale si debbe il recupero di tutto il grosso mazzo degli atti dell'intendenza di finanza durante l'epoca del Regno d'Italia, con l'intendenza di finanza del Dipartimento del Regno d'Italia. Questi uomini si sono incontrati e con estrema difficoltà anche nei ripensamenti, nelle conversazioni, nelle meditazioni di parte austriaca. C'era il Redlich, mi pare, vero? Che Redlich, no? Prego? Sì, va bene. Sì, ecco, si sono trovati di fronte a risolvere un problema di natura teorica, vero? Parlo sempre del materiale archivistico. Un problema di natura teorica importante. Si adotta il principio della provenienza o il principio della territorialità? Posto così, le cose sembrano facili e invece sono sempre più complicate. E si vede subito che, almeno dal punto di vista che io vedo le cose, c'è stata una certa disponibilità immediata da parte della Commissione italiana e in un certo senso anche delle autorità politico-militari italiane, una disposizione immediata a contemperare la rigidità della separazione tra il principio della territorialità e il principio della provenienza. I cessi, che io conoscevo, vorrei dire che è stato uno dei miei maestri, anche se proprio non ho vero lavorato nel suo istituto, parlandone mi ricordo ancora, così di questi argomenti, il Cessi faceva notare, ad esempio, che era impossibile l'adozione rigida di questi due, dell'uno o dell'altro di questi due principi, e mi portava, ad esempio, si ricordo perché si tratta di 25 anni fa, quando si parlava di queste cose, portava ad esempio tutto il grosso fondo archivistico della Kriegsmarine che c'era a Venezia. Per quanto riguarda il principio della territorialità, è vero, non c'è dubbio che la Venezia era lì a Venezia. Adottando il principio della provenienza, è stato uno dei primi fondi che è stato restituito perché si diceva sì, era a Venezia, territorialmente appartiene a Venezia, però non si tratta di un fondo archivistico che abbia diretto legame con quella che è la storia del territorio, perché questi atti della Kriegsmarine erano occasionalmente a Venezia, rappresentavano invece nient'altro che una parte distaccata di quello che era il grosso archivio della Marina Militare centrale, e sono stati restituiti. E allo stesso modo è stato citato qui, vero, i famosi dispacci della Germania. Lei stesso, lo ha confermato che intorno a questi c'è stato così un accordo, mi pare che prima siano state mandate tutte le copie. Inizialmente, però, prima di prendere una decisione, addirittura è stato fatto dono diretto di tutte le copie di questi dispacci della Germania. Non conosco invece quello che sia venuto per il Palazzo Venezia e per il fondo IVI esistente, che però, dalle notizie che mi pare di ricordare, non è ancora, l'avete voi, o allora si diceva che forse era andato a finire in Spagna, che forse era stato trasportato in Spagna, anche se questo era evidentemente legato alla storia del nostro territorio. No, l'archivio che si trovava nel Palazzo Venezia e adesso nell'archivio di Stato a Vienna, perché l'archivio dell'ambasciata, e tutti questi archivi furono trasferiti adesso a Venezia. Ringrazio, io ero rimasto così contento. È una sezione, si chiama sezione romana, Rom Correspondenza, Rom Arte. Ecco, poi volevo aggiungere anche questo: questi conflitti e questa difficoltà nello smembrare fondi archivistici non si è rivelata soltanto fra l'Austria e l'Italia, ma si è rivelata anche, un esempio che ho avuto io proprio nel luglio, nella mia ricerca a Vienna, anche nei confronti, per esempio, dell'Austria e della Cecoslovacchia. Io cercavo a Vienna, da parte dell'AI di Praga, ero con il Ministero degli Interni, e quello è stato tutto quanto riportato a Praga, anche se qui è estremamente difficile, era il rapporto tra un'autorità statale. Lo statale non era un rappresentante locale, eppure è stato richiesto nel 1921-22 e nei repertori dell'archivio del Verwaltungsarchiv a Vienna si trova segnato atto per atto con la segnatura vicina, consegnato con la Repubblica Cecoslovacca, eccetera. È vero anche che c'era qui in Italia una grande preoccupazione per quelle che potevano essere le richieste avanzate, ma più che da Praga, ero dalla Jugoslavia. E anche questo si comprende, perché di queste zone alcune erano di interesse storico comune dell'Austria, dell'Italia e della Jugoslavia, che avanzava, oltre che per Trieste, anche per la Carinzia, l'abbiamo visto nel congresso a Klagenfurt, no? Recentemente. È vero anche che, a quanto mi consta, può darsi che alcuni degli atti siano ancora rimasti in Italia, atti d'archivio, che forse ad una osservazione e ad una meditazione scientifica più compiuta potrebbero essere riconosciuti oggi, di migliore appartenenza e disponibilità in ampia. È altrettanto vero l'inverso. Noi abbiamo trovato, e la Società di Studi Trentini di Scienze Storiche ha fatto una pubblicazione proprio per grossa liberalità del professore della Nazionale Biblioteca Vienna, che è Unterkircher, mi pare, no? Esiste alla Biblioteca Nazionale di Vienna il sacramentario dal Pretiano, che non c'è nessun dubbio che è direttamente e strettamente, univocamente legato con quella che è la storia del Principato Vescovile di Trento, che non era stato ascoltato né tra la guerra del 66 e quella del 15, era andato perduto, mi pare, sul finire del secolo XVIII, e lì ancora, e anche questo, insomma, dovrebbe trovare la sua collocazione ragionevole proprio qui, nell'archivio o nella biblioteca o nell'archivio della Curia di Trento. Questi casi ci sono. E pertanto io credo che oggi li possiamo vedere, questa è la sede migliore, proprio l'Istituto di Storia, l'Istituto Storico Italo-Germanico, li possiamo vedere con una certa vero serenità che allora invece sicuramente mancava. Per quanto riguarda l'Innsbruck, ecco, proprio dall'esame di questo fondo della prima armata, che è interessantissimo per quegli anni, perché erano di una precisione questi militari. E noi siamo abituati a trattare a pesci in faccia, perché è un generale o un colonnello, erano di una precisione meravigliosa, perché scrivevano anche i particolari. Bene, io ricordo di aver trovato, mi dispiace di non averlo portato prima, ormai chissà dove, in qualche una delle mie cartelle di appunti, un telegramma del capo della missione militare a Innsbruck. Chi era il comandante della sesta armata, era della sesta divisione, che mi ha un poco commosso, così nel vedere anche da un punto così presenza negli ambienti militari una certa sensibilità, proprio nel momento in cui i funzionari dell'archivio si ribellarono alla consegna, i funzionari dell'archivio di Innsbruck si ribellarono alla consegna degli atti, si liberavano, hanno fatto una dichiarazione in cui dicono, insomma, siamo obbligati perché Renner avevamo dato l'ordine di consegnarli, ma però noi, dipendenti dell'archivio del Landesregierung, del Landesarchiv di Innsbruck, dichiariamo che facciamo la consegna soltanto per questo ordine superiore. Beh, in quegli stessi giorni il comandante il responsabile di questa missione militare a Innsbruck telegrafava che aveva sospeso le azioni di recupero degli atti dell'archivio di Innsbruck, perché proprio in quei stessi giorni, dunque sarà stato probabilmente verso il giugno o la fine di maggio o inizi di giugno del 19, e si era ormai appreso ad Innsbruck che il City Roll era stato assegnato, ovvero all'Italia, e che tutta la città di Innsbruck era in lutto, pavesata con bandiere nere per la perdita dell'Alto Adige, come diciamo noi, del City Roll, e non voleva ferire la sensibilità dei cittadini di Innsbruck con l'asportazione di questi atti. Voglio dire, ci sono stati, in mezzo a queste passionalità, ci sono stati anche elementi che comportano nella sensibilità degli uomini. Allora, ecco, quello su cui però insistere il professor Rainer è questo, è che noi non dobbiamo vedere l'intervento dell'autorità militare come un intervento fatto di forza soltanto, perché, ripeto, anche perché ci sono questi altri telegrammi, scambio di corrispondenza, i militari non agivano su iniziativa dei comandi militari, agivano su precise linee direttrici che venivano date dal segretariato generale degli affari civili, il quale era, come dicevo, al subordine del comando supremo, ma era investito di poteri e competenze di governo nelle terre via via occupate durante il periodo della guerra e anche dopo. Tanto era così autonomo questo segretariato generale degli affari civili, forse questo interessa anche i tirolesi e i sudtirolesi, che per esempio il governatore militare Pecori Girardi si rifiutò di applicare il prontuario del Tolomei, per il prontuario sulla denominazione dei comuni, eccetera. Addirittura in una vertenza con fra lui e il Tolomei, ricorrendo al ministro all'Orlando, era allora dicendo: il governatore, sono qui, io sono responsabile anche dal punto di vista del governo civile, e perciò si era rifiutato. Voglio dire, operavano non come i militari che arrivano con la spada sbarinata, ma proprio investiti con pienezza giuridica di poteri di governo. Di tutto questo, ne resta ampia traccia. Ho subito finito. E certo, io adesso qui bisognerebbe, per una visione organica e completa della questione, bisognerebbe poter raccogliere, secondo me, e questo sarebbe ben interessante anche per farne un ricordo, resti a memoria, raccogliere i casi di controversia. Ecco, va bene, per vedere se questi casi di controversia sono stati risolti o con l'intervento diplomatico, militare, lo nego nel modo più assoluto, anche se erano i militari che agivano. Anche qui a Trento c'era il generale Pecori Girardi che governava, ma per quei motivi detti, se sono stati risolti o con l'intervento diplomatico o con l'intervento militare, o se sono stati risolti invece sul piano scientifico. Questo sarebbe molto interessante dal punto di vista nostro, di studiosi di storia. E ripeto, c'era tutto questo problema dell'archivio della Kriegsmarine, questo grosso problema dei disfatti della Germania. L'altro grosso problema legato con la guerra del 66 era quello del fondo dei Grenzakten, di Nidiger Grenzakten, anche lì era il principio della provenienza o il principio della territorialità. Oddio, che poi ci siano state controversie anche su casi minori, né io ricordo, né non avendo consultato, se non così occasionalmente, questi atti che ricordo, che hanno memoria di queste cose, non ricordo. Ma su alcuni grossi temi bisognerebbe, secondo me, focalizzarci e vedere in questo momento quali sono stati i criteri adottati, ripeto, se diplomatico, politici, militari, cioè con la spada del vincitore, o se invece attraverso uno degli accordi che ne sono stati firmati moltissimi, a cominciare dal protocollo addirittura del 19, del 21, un altro nel 20, l'accordo separato era stato, e si è arrivati fino all'intervento del Salaka, ecco un'altra persona che è, come dimenticavo, era nell'ultima fase responsabile di tutta questa questione, lui Francesco Salaka, e si arrivò poi ad una ratifica dell'accordo del 17 gennaio del 25, una ratifica che fu allora data dall'allora capo del governo, il 25 era Ecco, interessante è questo, che un recupero venne fatto ancora nel 21, un recupero venne fatto ancora nel 29 dal Ministrina proprio, però con gli atti dell'intendenza di finanza, un altro recupero, ma di modesta, modesto volume, non so giudicare il valore perché io non li ho visti questi non andrebbe a vedere quelli, è stato fatto da Ziger, che era diventato direttore dell'archivio di Bolzano. Di Bolzano era stato istituito dopo la guerra, subito l'archivio di Bolzano. E poi si andò avanti fino all'ultima convenzione, che fu addirittura nel 1938, cioè penso nel gennaio o nel febbraio del 1928, nella convenzione italo-austriaca. Ultima cosa volevo dire era questa. Questo può essere una curiosità, in questa sede vale la pena di citarla. È vero, tutte le rivendicazioni, chiamiamole così, italiane, nei confronti, ma forse più che di documenti si trattava di oggetti, verso Ferdinandeum, e furono respinte, adottando il criterio che lì si trattava di un patrimonio di una società privata e che pertanto, ecco, così per una interessante curiosità, se riuscirò a farlo, se non mi interesserebbe pubblicarlo, magari lo do per gli altri, se credete, nel 1939, sono atti che ho visto all'archivio del Ministero degli Esteri a Bonn, e la città di Francoforte aveva trovato delle grosse casse contenente dei caratteri tipografici dell'alfabeto di una di quelle popolazioni dell'Etiopia, e si è sognato il borgomastro di Francoforte di donarlo all'Italia, re d'Italia voleva donarlo, perché re d'Italia è l'imperatore dell'Etiopia, diciamo, dopo la guerra del 35, ne è seguita una lunga questione diplomatica a livello di cancelleria a Berlino, e scambio con i pareri con il nostro ministro, il Ministero degli Esteri qui, e a un dato momento è intervenuto proprio la cancelleria del Führer dicendo: ma se noi adesso diamo queste casse in dono al re d'Italia, è una specie di riconoscimento in aggiunta a quello diplomatico della conquista dell'Etiopia. Ora state calmi, vengo subito alla fine, che riguarda il Ferdinandeo, state calmi, lo diamo sì, ma in vista di una contropartita, invece che come dono, come fosse uno scambio di cose che gli interessano. E che cos'è che possiamo domandare all'Italia? Possiamo domandare all'Italia il primo documento che abbiamo, ricordate, guarda, con il suo del Valle, da chi abbiano avuto questa segnalazione, io non lo so, perché non risulta dagli atti, e era il conto che aveva presentato il conto di un viaggio che aveva fatto a Passavia. A Passavia, precisamente. C'è stata anche una pubblicazione. Pubblicato, sì, precisamente. E allora sono andati alla ricerca di questo documento e hanno scoperto che però era presso il museo di Cividale, museo privato. museo privato come quello, come il Ferdinand. E allora tutta la storia, ma pensi, siamo arrivati fino al 43, dal 39 fino al 43, con questo sviluppo, tutta la questione si è fermata perché lo Stato non poteva intervenire a obbligare un museo privato a dare la persona. Com'è? E si è bloccata lì la cosa, il museo dice di dare per trovare il braccio, sarebbe stato disposto a darlo se avesse avuto Galizia in un codice, la Lex Utinensis, che era un codice, non so se ci sia ancora adesso, va bene, va bene. Voglio dire, questo criterio di rispetto di quella che era la proprietà privata fu adottato sia allora sia anche, va bene, successivamente. E io mando scusa, ma c'è bisogno di dire queste cose, una ricerca potrebbe essere interessante anche per portarci a ecco, e voglio dire, io sono spaventato di aver sentito che l'UNESCO ha questi progetti. Come? No, sì, ma spero che, come tutte le altre cose dell'ONU, vabbè, anche questa resti, va bene, avrò una speranza, un progetto, eccetera. Perché se c'è stato qualche cosa di meravigliosamente valido nel 1814-1815, e credo sia stato anche codificato, non so se nell'atto finale del congresso di Vienna, nel congresso di Vienna, è stato quello, avermelo di dire, vabbè, Napoleone ha rubato tutte queste cose, non c'è dubbio che è stato un ladro, perché le ha rubate, però ne ha fatto, avermelo, a servizio di tutta quanta l'umanità e della storia, per il museo, dove si possono vedere i tesori dell'arte di tutta l'Europa, insomma, perché ha rubato dovunque, che noi vincitori rinunciamo a rivendicare la proprietà, che resti lì, perché quello che ha fatto va bene anche per la storia futura. È stato un atto di grande saggezza, come tutti del resto quelli dei diplomatici del 15, il congresso di Vienna va senza dubbio rivalutato. Ho finito. E domando scusa. No, anzi, grazie per questo core ferate. Grazie per questa correlazione, insomma, ecco, perché effettivamente è stato di estremo interesse. Credo che il professor Rainer risponderà poi in ultimo, o no? Buono. Perché io vuol dire soltanto, forse posso rispondere. Certo, se c'è qualcosa poi dopo. E dunque, il problema è questo recupero. Nei primi mesi dopo la guerra era naturalmente più con la spada che tramite i diplomatici, sì, perché anche Salata nei primi mesi non si trova in tutti gli atti, solo un pochino dopo comincia, sì, e soprattutto tutta questa azione a Innsbruck fu fatto indipendentemente da Salata e dal suo commissariato civile, come si chiama, sì, perché questo era veramente, si vede, la direzione di Luzio e di Cerola. Questi hanno dimostrato la strada di andare subito a Innsbruck per fare il recupero dell'archivio trentino, e soprattutto per Luzio erano anche questi atti mantovani. Perché lui era informato, perché a Innsbruck si è cercato di fare un po' coprire questi atti, uno degli archivisti di Innsbruck ha scritto anche meglio è distruggere questi atti che restituire, perché non possono favorire la pace. C'erano dei processi di sì, ma per fortuna non furono distrutte, furono restituite, e a Innsbruck nel primo momento si è cercato anche di fare una finta, non, nessuno ha saputo che cosa si vuole, che cosa sono questi atti, ma invece Luzio ha fatto prima della prima guerra mondiale una corrispondenza col direttore dell'archivio di Innsbruck, il famoso Michael Mayer, chiedendo qualcosa di questi atti. E la Hiver Innsbruck ha fatto una risposta brillante spiegando questo, e Luzio cita queste spiegazioni da Innsbruck nel suo libro sui madri di Belfiore, e così lui era benissimo informato. Sì. Invece a Innsbruck hanno fatto una brutta figura dicendo non sappiamo che cosa volete. Sì. Se mi consente, professore, perché è una questione secondo me di fondo, anche proprio per il modo in cui si trattano, va bene, questi temi, e per questo spirito di estrema serenità con cui se ne discute, e speriamo di poterne continuare a discutere. Io, se avrò tempo, mi permetterò di fare una piccola nota giuridica a proposito di questo suo ribattuto convincimento che si trattava di un intervento militare. È un intervento eseguito dai militari, ma è un intervento di natura civile. Sì, ma tramite mano amata, sì, perché... Ma però da un punto di vista giuridico però ha un significato profondamente diverso. Secondo, vorrei che noi non ci meravigliassimo che nei momenti di conflittualità e di guerra, o anche alla fine della guerra, cose di questo genere qui avvengano. E vi giuro a Dio che non lo faccio a titolo polemico o di rimprovero, ma pensate, va bene, vero, che qui noi nei 20 mesi di occupazione, va bene, vero, dell'Alpenvorland, vero, e abbiamo avuto la sporto, lasciamo stare il famoso archivio Tolomei, sul quale si sa, se ne è discusso, eccetera, ma anche di cose del Museo Trentino del Risorgimento. Voglio dire, io non posso provare se l'intervento dei militari nel 19 fosse stato di questo tipo, non scientifico, ma semplicemente dell'uomo che ha la spada sguainata e che è vincitore. E così devo anche tener conto che a distanza di 30 anni si è ripetuta a rovescio più o meno la stessa cosa. Il valore nostro di queste discussioni è che noi non siamo né militari né politici né niente, ma che siamo degli uomini di studio e che sono proprio come storici obbligati a capire anche le varie situazioni, no? Nei momenti diversi. Sì, forse posso aggiungere qui ancora che nessun'altra autorità italiana era presente. Solo la missione militare e le forze della occupazione militare. E così era questa l'unica possibilità di fare qualcosa, perché solo dopo è arrivato anche un commissario politico aggiunto ancora alla missione militare. Ma in questi mesi, dal dicembre, io non posso dire fino all'aprile o maggio 19, dal dicembre di 18 e 20, erano presenti soltanto autorità militare. Io ho pubblicato nell'anno scorso un lavoro, un piccolo lavoro anche sulla occupazione militare italiana in Austria dopo la prima guerra, e qui ho avuto la possibilità di spiegare in modo preciso e chiaro che questa occupazione militare italiana a nostra era, fra questi tipi, esemplare. I trattenimenti degli ufficiali e dei soldati italiani era esemplare. Non si è visto in un altro momento una occupazione in questo tipo, esemplare si può dire. Cominciano subito i rapporti con la popolazione civile, anche gli aiuti, dall'inizio. Io non voglio dimenticare di mandare un separato nei prossimi giorni, sì, perché è pieno di lode per i soldati italiani questo. All'ufficio storico dello Stato Maggiore ci sono tutte le relazioni della missione di Innsbruck. Io ho studiato queste nell'ufficio storico, istituto storico dello Stato Maggiore, sì. Ufficio storico. Istituto storico, ufficio pubblicazione. No, ufficio storico. Ah, ufficio storico, sì. Via Lepanto. Sì. Sì. Benissimo. Lo Frachter. Ecco, qui il costume è che ognuno parla la propria lingua materna, ecco, confidando che gli altri siano in grado. Casomai il professor Reiner sarà tanto gentile e poi da. Aiuto, dass ich in meiner Sprache sprechen kann, denn ich verstehe zwar die Debatte auf Italienisch, aber ich spreche die Sprache Dantes jedenfalls so, dass sie erbärmlich ist. und das will ich Ihnen auch nicht antun. Nun, wir sind ausgegangen von der UNESCO und da möchte ich doch etwas in Erinnerung rufen, was Professor Rainer bereits angedeutet hat, dass in der UNESCO heute zum großen Teil Staaten das große Wort führen, die keine jahrhundertelange Tradition mit allen Erfolgen und allen Problemen haben und daher oft Forderungen stellen, die einfach illusorisch sind. Ich möchte an ein anderes Beispiel anknüpfen. Die UNESCO hat vor kurzer Zeit den Beschluss gefasst, dass in allen Atlanten aller Mitgliedstaaten sämtliche Ortsnamen nur mehr in der Muttersprache der betreffenden Gegend geschrieben werden dürfen. Es darf also in keinem italienischen Atlas mehr Monaco drinstehen oder Norimberga und so weiter. Aber nicht nur das, wir dürfen auch nicht mehr Kairo schreiben, sondern müssen Erhair schreiben, wobei ich es dahingestellt sein lasse, wie viele Leute das überhaupt richtig aussprechen. Wahrscheinlich von London bis Tokio niemand richtig. Dementsprechend auch die Forderungen mit der Rückgabe von Kulturgut. Die Rückgabe des Kulturgutes ist, wie auch bereits Professor Rainer gesagt hat, ein Ziel, aber sie ist in letzter Konsequenz unmöglich. Wir brauchen nicht an die Quadriga erinnern, wohin soll sie kommen. Wir brauchen auch nicht daran erinnern, was ist mit dem Aztekenschatz, soweit er heute in Wien ist. Denn die haben es ja zum Teil selbst wieder einem anderen Volk genommen und das ist womöglich schon ausgestorben. Wohin damit? Rein territorial ist widersinnig. Und ich glaube, dass man da sehr stark unterscheiden muss zwischen Kunstgegenständen, die nicht ortsbezogen sind, und Kunstgegenständen, die ortsbezogen sind, und Archiven. Wenn von einer Kirche eine Statue weggekommen ist, wo sie in den gesamten Raum hineingehört, dann gehört sie wieder dorthin. Sie gehört aber auch nicht in ein Staatsmuseum. Und wenn aber ein Bild von Rubens, das kann sowohl in London wie in Florenz und in Paris sein und es wird, oder in Wien, und es wird nicht das Kulturgut der Welt dadurch geschädigt, es wird auch nicht die Wissenschaft dadurch geschädigt. Ganz anders natürlich mit Archiven. Archive sind vor allem Aktenarchive, sind gewachsene Bestände, die zusammengehören. Und man kann sie nur als Ganzes erhalten. Jede Zerteilung nach dem Pertinenzprinzip oder Territorialprinzip, sie ist ein schwerer Verlust der Substanz. Und zwar für alle. Wir haben gerade in Innsbruck ein katastrophales Beispiel, dass die sogenannten vorderösterreichischen Archivalien, die also die österreichischen Gebiete im Elsass, im Burgund, in der Nordschweiz, im heutigen Südwestdeutschland betroffen haben, die sind unter dem Druck der napoleonischen Staaten nach Territorialprinzip aufgeteilt worden. Nun ist da ein Kodex, in dem selbstverständlich vorher alles drinnen war, denn kein Mensch hat im 16. oder 17. Jahrhundert daran gedacht, wie die Staatsgrenzen 1811 verlaufen. Weil der erste Teil gerade von dem gehandelt hat, ist es in das Staatsarchiv Schaffhausen gekommen, das andere ist in das Staatsarchiv Straßburg, Colmar, Stuttgart, Karlsruhe, München, Neuburg und so weiter gekommen. Die anderen Teile des Kodex aber betreffen ja die anderen Gebiete, und zwar mittendrin, oft auf der einen Seite das eine und das andere, sodass ich also nicht einmal die Seiten zerreißen kann. Und alle anderen haben davon nichts. Und wir haben zum Beispiel heute die Situation, dass in so und so vielen Fällen das Staatsarchiv Stuttgart nach Innsbruck schreibt, können Sie nicht aufgrund anderer Quellen feststellen, in welchem Zusammenhang das gewesen sein könnte, damit wir dann wissen, in welches Archiv wir eventuell schreiben könnten, um das zu bekommen, was wir brauchen. Das ist ein unmöglicher Zustand. Und da muss ich schon sagen, bei Archiven muss man auf das Provenienzprinzip unbedingt achten und man soll Körper ganz lassen. Man kann sich darüber streiten, ob der Körper als Ganzes da oder dorthin kommt. Aber wenn, dann muss er als Ganzes bleiben. Und ich betrachte es als einen ganz, ganz, ganz großen Vorteil, Gewinn dieser Verhandlungen, die nach dem Ersten Weltkrieg geführt worden sind, und zwar gerade zwischen Italien und Österreich, aber auch zwischen den anderen Nachfolgestaaten, dass zum ersten Mal das Provenienzprinzip in das Völkerrecht hineingegangen ist. Das war Initiative, ging aus von Ihnen bereits genannten Professor Redlich. Es hat es dann Italien aufgegriffen, vor allem Frankreich auch aufgegriffen und hat es durchgesetzt. Obwohl natürlich von Italien her manche Wünsche anders gewesen wären, aber die italienische Nation ist eben eine Kulturnation und hat gewusst, welche Folgen das hat. Und sie hat vor allem auch sehr bald erkannt, was es für Europa bedeuten würde, wenn all die Dinge, die beispielsweise in den Wiener Sammlungen sind, zerstückelt werden, rein nach Pertinenzprinzip. Und da dürfen wir nicht vergessen, im Bild der damaligen europäischen Kulturnationen ist ein großer Teil der Nachfolgestaaten als Entwicklungsländer betrachtet worden, denen man besser nichts in die Hand gibt. Und vor allem die Rivalität zwischen dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen auf der einen Seite und Italien hat auch die zuerst sehr weitgehenden Forderungen Italiens die Herren sofort überlegen lassen, ja, ist das sinnvoll, so weit zu gehen? Und man hat aus diesem Grund dann also das Provenienzprinzip zum ersten Mal in der Weltgeschichte in das Völkerrecht hineingenommen. Und es war nach dem Zweiten Weltkrieg auch ein großer Vorteil, dass zum Beispiel das Turiner Archiv nicht so geplündert worden ist, wie es vielleicht im anderen Fall geplündert worden wäre, unter dem Druck der damaligen Sieger. Freilich, wie immer, Prinzipien sind im Völkerrecht nicht immer, kommen nicht immer zur Anwendung. Der Stärkere, der setzt sehr viel durch im Augenblick. Und wenn ein Soldat etwas mitnimmt und er hat das Gewehr in der Hand, so wird ihm auch gegen alles Recht, so wird ihm der Besitzer nicht immer widersprechen können. Was Innsbruck speziell betrifft, so ist die Archivabtretung unter einem unseligen Stern insofern gewesen, dass zuerst mit der Macht des Stärkeren die Schlüssel des Archivs abgezwungen worden sind und dass da manches gemacht worden ist, was überlegte Leute beider Seiten bestimmt nicht gemacht hätten. Ich muss da dazu sagen, dass die Rechtsstellung der italienischen Armee nördlich des Brenner ja etwas anders gewesen ist als südlich des Brenner. Nach dem Waffenstillstand hatte die Armee nördlich des Brenner keine Souveränitäts- und Verwaltungsrechte. Es ist also nicht so wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Alliierten in Österreich die Souveränität übernommen haben. Sie waren nur eine Absicherung, weil er zur Zeit des Waffenstillstands Deutschland noch nicht kapituliert hat, gegen eine etwaige Front, die sich neu bilden würde. Trotzdem ist es natürlich mit der Stärke des, der Besatzungsmacht gelungen, manches zu erreichen. Und das hat auf der anderen Seite wieder Reaktionen hervorgerufen, die psychologisch erklärbar sind, aber der Sache nicht gedient haben. Man hat zum Beispiel Forderungen gestellt und versucht auch durchzusetzen, die über das Maß hinausgingen. Zum Beispiel Bearbeitungen von Archivalien, von Registern bis zu Abschriften, die gehören natürlich, und das ist heute international eindeutig, dem, der sie gemacht hat. Sie wurden aber nach der Pertinenz, nach dem Betreffsystem angefordert. Man hatte nun das Gefühl, das ist zu Unrecht, das ist ja schließlich meine wissenschaftliche Arbeit und so weiter. Und die Reaktion darauf war das Verstecken. Das Verstecken, was uns allen zum Nachteil ist, denn wir haben manche Sachen bis heute noch nicht gefunden. Es ist bewusst dann, und da ist eine gewisse Parallele mit dem Wirken der beiden Kulturkommissionen im Zweiten Weltkrieg, die glaubten, die einen haben etwas für sich haben wollen, die anderen wollten es retten. Jeder, nicht nur immer bona fide, sondern zum Teil optima fide, hat es vor dem anderen sichergestellt, und am Schluss haben wir es heute beide nicht mehr, bis heute noch nicht. Solche Dinge gibt es. Es sind Dinge auch rein irrtümlich mitgenommen worden. Wenn zum Beispiel im Trienter Archiv von den Reitbüchern ein Band da ist, von 1289, glaube ich, oder, der ist einfach irrtümlich mitgenommen worden, und zwar deswegen, weil er im letzten Stadium der Benutzung gleichzeitig mit Trienter Urkunden von einem Forscher benutzt worden ist, der am gleichen Stoß stand und daher mit. Ein zweiter Band ist bis heute verschollen. Im Übrigen hat die italienische Kommission die Rechtmäßigkeit, dass das nicht nach Italien gehört, sondern in die Reihe der Reitbücher nach Innsbruck, bereits im Jahr 1921 unterschrieben und versprochen, es zurückzugeben. Es ist bis heute meines Erachtens deswegen nicht geschehen, weil man den zweiten Band inzwischen nicht mehr gefunden hat. Und den hat man bis heute noch nicht gefunden. Und da kommen wir noch zu einem Punkt, der sehr traurig ist in seiner Auswirkung. Wie gegen Ende des napoleonischen Königreichs Italien noch schnelle Sachen zentralisiert worden sind, hatte man kein Auffangarchiv, das dazu imstande war. Und viele Dinge sind sicher deswegen zugrunde gegangen oder irgendwo hingekommen, wo man sie überhaupt nicht mehr gefunden hat, bis man zum Beispiel jetzt im Zweiten Weltkrieg im Turiner Archiv unter der Miscellanea solche Sachen entdeckt hat, weil fast Sickel infolge der Bomben geplatzt sind. Durante il Regno d'Italia furono presi atti anche dal Tirolo e furono trasportati in Italia, ma qui non era preparato un archivio centrale per questo nuovo regno. E così, dopo la caduta di Napoleone, questi atti sono andati all'archivio di Torino e nessuno ha saputo più che cosa si trova qui. E solo durante la Seconda Guerra Mondiale, in occasione di un bombardamento, quasi è uscito anche questo fondo degli atti tirolesi nell'archivio di Torino, dopo un sogno di un secolo e mezzo quasi. Sì. Es war nicht nur Archivalien aus dem Trentino, das möchte ich gleich sagen. Es waren Archivalien aus den verschiedensten Gebieten des ehemaligen Regno d'Italia, die man dort in Turin dann als Fascicoli Miscellanea eingeordnet hat. Und ohne Repertorium und dort sind sie halt begraben gewesen, wie die Mumien aus Ägypten. Ja. Ich glaube, solche Dinge sollte man austauschen oder man sollte sie, und dazu haben wir heute ja doch die Möglichkeit, zumindest genau bekannt geben, wo sie sind und sie mit Fotoreproduktion dem anderen austauschen. Ich betrachte die Möglichkeit, die Originale auszutauschen, für sehr gering. Denn das sind Sachen, wo nicht der Wissenschaftler, wo nicht der Archivar darüber entscheidet, sondern das sind Staatsangelegenheiten, wo der Politiker entscheidet und wo dann Verhandlungen gemacht werden. Ich tausche einen Wirtschaftsvertrag gegen Kulturgüter und so weiter und so weiter. Das ist ein juristisch ein Verlust an Staatsgut, das ja auch kein Minister mehr unterschreiben darf. Das muss das Parlament beschließen. Wenn ich recht im Bilde bin, nach italienischem Recht muss ein Substanzverlust von Staatsgut mit 2/3 Mehrheit im Parlament durch. Das ist nicht zu machen. Aber man kann sagen, wo die Sachen sind, man kann herausrücken und man kann sie zumindest der Forschung zugänglich machen durch Fotografien. Und damit komme ich zu einem Punkt, den du am Schluss noch erwähnt hast, diese Dinge, die in der Tschechoslowakei liegen. Ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, dass das ein Soldat mitgenommen hat. Denn es ist erwiesen, dass in der Monarchie hatten sehr, sehr viele Adelsfamilien entweder persönlichen Besitz oder Verwandte in Böhmen. Und in jeder Krisensituation versucht man, seine wertvollsten Stücke dorthin zu bringen, wo sie am sichersten sind. Entweder in das Tresor, in der Wohnung, so man hat, oder irgendwo zu Verwandten und so weiter. Es ist in hunderten Fällen nachgewiesen, dass einzelne Familien ihren Besitz, ihre wertvollsten Zimmerien, Schmuck und alles Mögliche, auch Dokumente Verwandten in Böhmen übergeben haben, damit sie sie gut aufheben. Nicht nur in den Kriegsgebieten, und hier Görz wäre ja überhaupt Kriegsgebiet gewesen, sondern auch in den Gebieten, wo es dann unruhig wurde, zum Beispiel im ganzen Jahr 1918, also nicht erst zu Kriegsende, in Kroatien oder in den Siebenbürger und südlichen Gebieten von Ungarn und so weiter. Dort haben die Leute das weggeschafft. Und das ist halt dann irgendwo in Böhmen geblieben. Südtirol hat mehrere Fälle, wo ja ganze Archive dorthin gebracht worden sind. Ich denke nur an Dunkel. Das Schlimme nun, da ist jetzt der große Unterschied. Wir zwischen Italien und Österreich, die Kulturnationen des Westens, da bin ich überzeugt, dass sich ein Modus finden wird, dass man sich gegenseitig verständigt, was da ist. Dass es gegenseitig benutzbar ist, das kommt ja schließlich jeder hier ins Drehende Archiv hinein und ins Innsbrucker auch und wir können es fotokopieren und so weiter. Was anders aber mit den Archivalien, die heute in der Tschechoslowakei sind und im Osten sind, die sind ja hinter einer eisernen Mauer. Wir sind nun so weit, dass ein Buch erschienen ist über die mittelalterlichen Urkunden, die nicht Bohemica sind in der Tschechoslowakei. Wir wissen von denen zumindest, aber wir wissen nicht von den jüngeren Sachen. Und wenn Sie heute beispielsweise die Arbeit von Maček über Michael Geismayer nachvollziehen wollen, aufgrund der Quellen hiesiger Provenienz, Trentiner Provenienz, die heute in einem tschechischen Archiv liegen, so ist ein mehrfacher Filter. Der Benutzer wird überprüft, ob seine Forschung wahrscheinlich dem Kommunismus nützt oder möglicherweise schadet. Ist die zweite Möglichkeit gegeben, aus Und dann wird noch das einzelne Dokument überprüft, ob diese zwei, welche der beiden Möglichkeiten gehen. Es sind also so und so viele Stücke, an die man einfach überhaupt nicht ran kann. Wobei es nicht einem Wissenschaftler zusteht, darüber zu urteilen, sondern dem kleinen Politruck von der Staatspolizei, der die unmöglichsten Entscheidungen macht. Ich kenne einen Fall aus der eigenen Familie, wo ein Mann verhaftet wurde, weil er angeblich Propaganda zur Wiederherstellung der Monarchie macht im feindlichen Ausland. Der Grund war, dass ein Gestapo-Beamter, es handelt sich in dem Fall um meinen Vater, der da verhaftet worden ist, mein Vater hat einen Aufsatz geschrieben über das Zusammentreffen von Karl V., also Beginn der Neuzeit, mit Hans Sachs in Schwarz. Der gute Gestapo-Beamte hat sich bei dem Karl nicht ausgekannt, hat daraus den Karl den Letzten von Österreich gemacht, und nachdem das in einer philologischen Zeitschrift in Amerika publiziert worden ist, hat man den Menschen einmal schnell verhaftet. Also nach solchen Kriterien wird dort beurteilt und nach solchen Kriterien wird gesperrt und man kommt an so und so viele Dinge, die sowohl Provenienz als auch pertinenzmäßig ganz woanders hingehören, einfach nicht heran. Einen letzten Punkt möchte ich noch erwähnen, der vielleicht das Verständnis erleichtert. Im Jahr 1925 hat Italien ja noch keine Schlusserklärung abgegeben, was den Kulturgüteraustausch betrifft. Und man hat damals eine immerwährende Verpflichtung Österreichs angestrebt, es ist ja später dann eine Schlusserklärung abgegeben worden. Man hat damals von allen akademischen Beamten, zum Beispiel des Innsbrucker Archivs, einen Eid verlangt, dass sie nicht nur alles ausgeliefert haben, was auf das Italien Anspruch hätte, sondern dass sie auch in Zukunft alles melden müssten, was irgendwie unter diese Bedingungen fallen würde. Der wäre also für ewige Zeiten gewesen. Dieser Eid hat, und damals war es doch so, dass der größte Teil der Menschen noch einen Eid für etwas Heiliges gehalten hat, und es noch nicht üblich war, dass man alle paar Jahre für einen neuen Staat einen neuen Eid leisten haben müssen, hat die Leute sehr belastet. Und ich weiß, dass damals Sachen, im Übrigen hat auch der Chefverhandler, dieser venezianische Archivdirektor, diesen Eid als nicht für richtig empfunden. Ich weiß, dass damals Sachen, dass man nachher den Leuten gesagt hat und dass Akademiker ihrem Personal gesagt haben, um Gottes Willen sagt uns nicht, wenn sowas auftaucht, denn wir sind dann gebunden. Heute sind wir anderer Ansicht, aber das hat jedenfalls manches beigetragen, dass Dinge nicht aufgetaucht sind, die sonst vielleicht schon in den 20er und 30er Jahren bekannt gegeben waren. Und zuletzt, mir erscheint es als das Wichtigste, dass die Dinge der Forschung offen sind. Und ich bin auch da, was mich betrifft, zu jeder Mitarbeit bereit. Wir werden Repertorien von Beständen, die andere Gebiete betreffen, systematisch erarbeiten und werden sie diesen Archiven zur Verfügung stellen, die dafür regional zuständig sind. Wir haben damit bereits begonnen. Wir haben mit Bayern schon hervorragende Sachen gemacht. Bayern hat uns zum ersten Mal seine Geheimakten geöffnet, Generaldirektor Jaroschka, worin drin stand, was man versteckt und verheimlicht hat. Wir haben es umgekehrt gemacht, wir werden es mit der Zeit, aber die Dinge brauchen natürlich auch Zeit, mit allen Gebieten so machen. Und es ist durchwegs so, dass durchwegs in allen Fällen, die wir jetzt angegangen sind, gerade Bünden und Bayern, und das wäre wahrscheinlich mit dem Trentino ganz genauso, durchwegs auf beiden Seiten sich Stücke finden, die eigentlich irrtümlich dort sind und die woanders hin können, die man aber nicht mehr wegziehen kann oder will oder nur mit so großen staatlichen Schwierigkeiten, dass es für die Forschung vorteilhafter ist, hier zugänglich, als sie enden im Tresor eines Außenministeriums. Tutto chiaro? Ja. Non è necessario di spiegare in italiano. Penso di no, insomma. No. Tutto chiaro. Aveva chiesto la parola al dottor Ortolani, ma il dottor non c'è. Ortolani è fuggita. Quindi non so se. No, dunque il tenore generale del professor Adera era apertura completa degli archivi, strada libera per le scienze storiche in collaborazione internazionale. Ha dimostrato che ha già cominciato con l'archivio di Stato a Baviera e anche con la Svizzera questa apertura, e lui è del parere meglio i documenti rimangono adesso dove si trova e ognuno è invitato di chiedere fotocopie eccetera eccetera. Sì. Non si comincia ancora una volta con queste restituzioni. È anche vero che in 3 ore possiamo andare a Innsbruck. Una telefonata e si manda una fotocopia. Più importante è lavorare su questi repertori. Più importante è pubblicare gli indici generali. E così gli studiosi possono cercare, possono trovare tramite tutti questi indici tutti i documenti. E oggi tutti gli archivi sono già in grado di fare fotocopie, di mandare anche all'estero. Le mie esperienze tutto sono positive in questo campo, sì. Certamente. E qui il problema, direi, degli archivi si è distinto dal problema delle opere d'arte, sempre di sì. Un grande pericolo naturalmente in altro mondo, sì. Controllo statale severo qualche volta. Questo dobbiamo dire. La professoressa Garbari? Ma molte delle cose che io avrei voluto anche così dire e suggerire sono già state dette dal professor Corsini, per cui io potrei ben poco aggiungere di nuovo, di interessante. E credo che rivedere tutta quella serie di convenzioni o di principi così stabiliti in modo unilaterale e bilaterale dal 1919 fino al 33, addirittura 38, ma in particolare tra il 19 e il 24, lo so, penso alla convenzione di Roma del 6 aprile 22 o quella di Vienna del 24, penso che queste convenzioni dovrebbero essere riviste non tanto per far emergere una conflittualità nello scambio o nella restituzione dei documenti, in quanto proprio per estrapolare un dibattito sui principi che sono la base della formazione, della conservazione, della reintegrazione degli archivi. Perché questi principi riemergono, parlava il professore proprio di quando stabilito all'UNESCO, sono veramente dei principi fondamentali e importanti. Perché si parte con l'idea che gli archivi vanno legati al principio di origine e di provenienza, ne hanno tanto parlato, che pertanto gli archivi seguono la sorte della regione in cui si formano, costituendo un tutto indivisibile con la regione. Principio di provenienza o il principio territoriale. E immediatamente, anche una volta firmate queste convenzioni, mi pare che questi principi trovano dei criteri estremamente difficoltosi di applicazione, perché anche il principio territoriale, territorio in senso meramente geografico, meramente materiale, o territorio in senso storico, storia del territorio o delimitazione geografica del territorio. E Cioè io mi sono accorta, per quel poco che conosco, appunto per quel poco che ho potuto documentare, proprio la difficoltà di delimitare il concetto di territorio in questo senso. E qui sorvolo da certe prese di posizione estremamente, addirittura discutibili. Io mi sono letto quell'articolo del Gerola che il professore indicava, ma ci sono delle cose addirittura che sono... Non possiamo accettarle. L'idea, per esempio, che gli oggetti ritrovati o di scavo sono di proprietà dello Stato, ma si domanda a Gerola, cosa intendiamo per Stato? Per Stato, dice, non è il governo, ma la legittima rappresentanza nazionale. Insomma, oppure la contestazione degli acquisti o delle donazioni, dei ragionamenti, sono state acquistate delle cose da musei o da archivi di Innsbruck, ma siccome i trentini pagavano le tasse, sono stati acquistati quei soldi dei trentini, per cui devono tornare in Trentino. Cioè, io non voglio parlare di queste prese di posizione che evidentemente lasciano il tempo che trovano, ma invece appunto questi principi che determinano delle grosse difficoltà proprio nella restituzione dei documenti archivistici. E a questo proposito vorrei rilevare quanto io credo sia stato il criterio emerso dal lavoro di Cessi, di Roberto Cessi, dalle relazioni di Roberto Cessi, perché mi sembra che sia interessante come alternativa o integrazione del principio di provenienza o del principio meramente territoriale. Dunque già nel 20, se non sbaglio, egli sosteneva che la semplice restituzione del materiale trasferito in base ai principi territoriali di provenienza portava al frazionamento di serie unitarie, ecco il criterio della serie unitaria dell'archivio. Difatti, gli diceva che la reintegrazione totale delle serie archivistiche in base al principio di provenienza o territoriale portava, indipendentemente da qualsiasi altro presupposto di giurisdizione di tempo, alla spaccatura di serie unitarie. E un esempio di tutto questo egli lo dava con l'archivio di Gorizia. Per i documenti goriziani, che fanno parte di una serie collegata in unità, cioè la serie dell'archivio dei conti del Tirolo, se riportati nel goriziano avrebbero spaccato l'unità di questa serie, con l'ulteriore spaccatura nel momento in cui la Jugoslavia avesse rivendicato i documenti riguardanti la Carinzia. Perciò, secondo il Cessi, credo almeno da quel poco di Cessi che conosco, invocare il principio di provenienza territoriale avrebbe spaccato la serie unitaria dell'archivio dei conti del Tirolo, perciò credo su sollecitazione dello stesso Cessi si rinuncia ad avere questi documenti goriziani e spingendo così anche sul governo jugoslavo perché rinuncino a quelli legati al territorio carinziano in modo che possa rimanere integra e unitaria questa serie degli atti di archivio dei conti del Tirolo, che poi è stato anche un po' il criterio dei documenti riguardanti la Marina Militare di Venezia. Ora mi pare che questo criterio del Cessi, dell'unità della serie archivistica, sia veramente qualcosa da tenere presente in una revisione di questi accordi, proprio fatta in sede di principi, accanto al principio di provenienza e accanto al principio territoriale. Cioè non sarebbe giusto rivedere tutta questa problematica, però sulla base appunto dei principi, messi in evidenza, per vedere c'è la possibilità di integrare eventualmente o di poter contemperare tali principi proprio ai fini dell'utilità degli studiosi, perché possano avere in modo unitario e coerente il materiale archivistico per i loro studi. Il principio si raggiunge in fondo, perché emerge di questo problema. È importante, è difficile scegliere fra i due. Tu mi parlavi della corrispondenza del Cresce, ma la corrispondenza di che cos'è? Bernard Cresce. Sì, di Bernardo Cresce. anche lì era stato fatto il tentativo di dividere quello che riguardava il Cresci come principe vescovo di Trento e quello che riguardava il ministro come segretario della diciamo ministro è ben difficile, no? Molto difficile. Provenienza e territorio non solo, ma anche territorio in senso storico, in senso veramente geografico, insomma, perché abbiamo le due accezioni di territorio ed espresenti. E dunque io voglio aggiungere ancora, per gli atti più recenti fu rispettato anche il principio territoriale. E così furono date da Innsbruck, dopo tutti questi avvenimenti, gli atti di Bauamt. Degli uffici lavori, eccetera, furono mandati tutti che fanno parte al Trentino, al Sud Tirol, qui a Trento e a Cozzano. Questa è un'altra cosa perché si può capire che questi atti fanno parte qui dal territorio, gli atti di costruzioni pubblici, stradali, palazzi, eccetera. O per esempio esisteva un piccolo fondo degli atti per la costruzione del palazzo del seminario di Trento. Anche questi atti furono mandati a Trento, nonostante che il fondo generale, la provenienza era senza dubbio Innsbruck, sì. Sì, non si possono, insomma, sì. E così vuol dire nessuna regola senza eccezione. Volevo domandare al professor Dörr, che prima ha accennato, c'è tempo ancora? Senz'altro, anche perché l'intervento di Ortolani è rinviato. Va bene così. E volevo domandare al professor Dörr, prima ha accennato agli atti d'archivio riguardanti il regno italico, no? La corrispondenza del Melzigerid è stata portata dove era prima? Era a Vienna. A Vienna, per tutto il fondo. Era a Vienna. Vienna. Tutto il fondo. Mi schiera interessa anche perché ho visto se ne è occupato la FISA, no? Sì. È vero, se ne è occupato e sta pubblicando o ha finito di pubblicare? Non so, credo sia ancora in corso. Ancora in corso. Erano a Vienna, il Melzigerid era il presidente prima della Repubblica e poi va bene, vero, è stato un malato della Repubblica italiana, dal 2 al. Da due a cinque, e tutti gli atti erano a Vienna, non so in che modo siano finiti, va bene, perché, e adesso sono stati restituiti, questo proprio e qui il principio territoriale e il principio di provenienza si assommano, e allora è facile avere la soluzione. Ma dove invece il principio territoriale e il principio di provenienza si elidono l'uno con l'altro, forse l'unica soluzione possibile è quella di mantenere unitario il fondo e unitaria la sede, se no diventa fuori la questione della corrispondenza del Cresce, insomma. La parola Ja, zum letzten, soweit ich Sie verstanden habe. Das, was ich zuerst gebracht habe mit dem Archiv Turin, ist eine Auskunft, die uns das Staatsarchiv Turin im Jahr 1950 gegeben hat. Es handelt sich dort aber um Akten, die bereits vor 1813 nach Süden gebracht worden sind. Es ist nicht die große Masse, es sind einige, die dann den Irrweg gegangen sind und völlig unbekannt geblieben sind. Wäre nicht im Zweiten Weltkrieg der Fascikel geplatzt, so würden sie wahrscheinlich noch in 1000 Jahren unbekannt sein. Zu dem, was Sie, Frau Professor, gesagt haben, leider habe ich nicht alles verstanden. Es ist selbstverständlich, dass wir gewisse Kompromisse machen müssen, die wir aber immer machen müssen. Das Prinzip lässt sich nicht eisern durch. Es sind auch immer Zugeständnisse gemacht worden, wie Professor Reiner soeben gesagt hat, zum Beispiel mit den Bauakten. Es sind beispielsweise auch von Österreich die Forschungen über die unterirdischen Gewässer im Karst, die ja für Italien nach dem Ersten Weltkrieg in Israel und so weiter. Dal Carso, sì. Diese Forschungen sind von der Wiener Universität gemacht worden. Es ist eindeutig, dass es Wiener Provenienz ist, aber sie waren für die dortigen Gemeinden für größte Wichtigkeit und die hat man nachher auch hergegeben. Es wird umgekehrt, hat man nach dem Ersten Weltkrieg das Archiv von Sonnenburg in Bustertal, was zum Teil die Dinge in Österreich, im heutigen österreichischen Teil Tirols betroffen hat, obwohl der Sitz Sonnenburg in Südtirol wäre, also ist eigentlich nach jetziger Auffassung in der Staatsarchiv Bozen, hat Italien in einem besonderen Artikel zugestanden, dass das in Österreich bleibt. Da sind also gewisse Dinge so ausgetauscht worden. Warum? Weil man ganz am Anfang das Prinzip bis zum Wahnsinn getrieben hat. Ich bringe da nur ein Beispiel, was nicht erfunden ist. Das ehemalige Landgericht Heinfeld-Silja hat sowohl Innichen, Sechsen, als auch auf österreichischer Seite Diljach, Siljan und so weiter umfasst. Das sind nun die Protokolle und die Protokolle beginnen immer, jedes Tagesprotokoll, mit dem Aktum. Und wenn jetzt dort auf der ersten Seite Aktum Sechsten gestanden ist, hat es die italienische Kommission verlangt. Und wenn Aktum Siljan oben gestanden ist, am nächsten Band hätte man es in Österreich belassen. Dabei sind die Bände innerlich genau dasselbe, denn auf der zweiten Seite steht schon das Umgekehrte. Dieses Experiment hat man zuerst durchgezogen, aber Gott sei Dank ohne die Bestände schon zu teilen, durchgezogen, bis man draufgekommen ist, ja so geht es nicht. Man kann nur einen Bestand entweder ganz da lassen oder ganz da. Ne? Darf ich da dazu etwas sagen? Da habe ich eine piccola osservazione. Ho fatto in circa un anno fa nell'archivio degli affari esteri a Roma, nei primi mesi dopo la prima guerra mondiale non c'era ancora il principio della provenienza. Questo è uscito così nel corso dell'anno 1919, soprattutto sotto la sorveglianza di Redlich, ma nei primi mesi non era ancora. E così questi primi che sono arrivati dall'Italia a Vienna hanno cominciato a cercare negli atti recenti cose che fanno parte al mondo italiano e così hanno pensato di trovare martiri, hanno pensato di trovare eroi, eccetera, eccetera. E così hanno fatto pacchi grossi di questi atti e mandato via da Vienna. E nessuno ha visto più questi atti. E solo nell'anno scorso, occasionalmente, uno ha fatto aprire un cassettone nella cantina del Ministero degli Affari Esteri a Roma e sono usciti questi atti senza provenienza, senza far parte più a un fondo e nessuno ha saputo più di dove sono questi atti. Occasionalmente io ero presente in questi giorni e così ho potuto constatare che cosa abbiamo qui trovato di nuovo, ma si è voluto fare una bella cosa per, io vuol dire, per aumentare il splendor patria, anche comate, eccetera. E la fine era la cantina, nonostante che una volta il Ministero degli Affari Esteri fu trasferito, sì, una nuova costruzione, un nuovo palazzo, queste cassettone hanno fatto parte a questo trasloco, nessuno ha più constatato. E così possiamo ripetere soltanto, lasciamo tutto sul luogo, sì, e facciamo aprire per gli studiosi gli archivi, sì. Ich darf noch eine Kleinigkeit nachtragen, die vielleicht dem einen oder anderen Forscher von Nutzen sein kann. die Kulturkommission, sowohl die italienische Kulturkommission als auch die deutsche, die während des Zweiten Weltkriegs in der Provinz Bozen gearbeitet hat, haben zum Teil fotografiert. Die deutsche Kulturkommission hat 6 große Mikrofilmstellen eingesetzt, um da zu fotografieren. Es sind leider Gottes diese Filme zum größten Teil nach Berlin gebracht worden und dort zu Kriegsende zugrunde gegangen. Aber wir haben in Innsbruck ungefähr einen Kubikmeter Filme, die zurückgeblieben sind. Und in diesen, die man zurückbehalten hat, man hat in Innsbruck längst schon gesehen, dass es widersinnig ist, die ins schon kriegsnahe Berlin zu schicken. Aber die Reichsführung hat es verlangt. Unter diesen Filmen sind, und ich weiß einige Beispiele ganz konkret, auch Dokumente, Kodizes und so weiter, wo die Originale seit dem Zweiten Weltkrieg verschollen sind. Also wenn Sie so eine Frage haben, bitte wenden Sie sich an uns. Wenn wir Glück haben, ist der Film darunter. Also zum Beispiel, riguardano che periodo? Tutti i periodi dagli Agili del Sud Tirolo. Von Nikolaus von Cusa sind Sachen drin und so. Vom Gemeindearchiv, zum Beispiel der berühmte Codex Cusianus da, der ist als Film erhalten, den haben wir schon mindestens 10 Mal an verschiedenen Universitäten. Bis in welcher Zeit gehen die Filme, also welche Zeitperiode? Als obere Grenze das 18. Jahrhundert. 18. Jahrhundert, cioè, aber ich kann la maggior parte è distrutta, sì, perché la maggior parte di questi film non esiste più, perché fu mandato a Berlino. Qui è finito tutto, ma una parte minore è rimasta in un metro in cubo in circa di film. E questo si può usare ancora oggi, una parte di originali allora è sparito. I film esistono ancora. Wir haben sogar, weil es eben bei Kriegsende gerade hier geblieben ist, Filme gehabt, die die Toskana betroffen haben. Die haben wir nach Florenz abgegeben. Aber die anderen Filme sind nun bei uns und das können Kopien jederzeit gemacht werden. Nun ist es freilich so, wir haben nicht die Filme von allen. Wir sind, manche Sachen sind im Original da und der Film nicht mehr und leider Gottes auch in vielen Fällen, dass der Film nicht, auch nicht mehr da ist. Aber molto interessante, la ringraziamo. Esiste un inventario di questi film? Sì. Leider nicht, aber wir werden sie in nächster Zeit eines pubblizieren. Questa è la cosa più importante, come diceva il professor Rainer, cioè lavorare sui cataloghi, sugli inventari. Poi dopo così si fa aprire il tesoro, sì. Un altro caso interessantissimo dove però non c'è stato contrasto tra principio di provenienza e principio territoriale è stato quello dell'archivio di Massimiliano dal Turco, dell'archivio di Miramare. Lì non c'è nessun dubbio che per territorio, ma sarebbe stata una pazzia richiederlo, no? Perché dicevo che un caso nel quale abbiamo parlato di casi in cui tra principio territoriale e principio di provenienza c'è contrasto e difficoltà, un caso in cui invece i due principi sono chiaramente distinti, sì. È l'archivio di Massimiliano d'Asburgo, quello che era Miramare. Come principio territoriale era qui, ma nessuno si è mai sognato di rivendicarlo perché come provenienza era legato esclusivamente alla casa d'Asburgo e alla storia dell'Austria, più che alla storia dell'Italia. E soprattutto abbiamo questo problema per l'archivio dell'ordine teutonico, che prima era in Prussia orientale e fu trasferito verso la fine della guerra in Germania occidentale e adesso qualche volta i polacchi hanno già cominciato di lamentare e chiedere questo archivio russo. Non so se possiamo chiedere al dottor Ortolani, è stato... Sì, io chiedo scusa, purtroppo, sono stato chiamato dal ministro Biasini, e quando sento il ministro Biasini, credo anche in Austria, quando chiama il ministro, credo che insomma i direttori d'archivio hanno una certa attenzione. In dem Augenblick, wo die Politiker sich damit befassen, so passieren oft Dinge, mit denen wo uns nur grausen kann. Aber auch wenn man zu wenig im Fachkreis die Prinzipien zuerst durchdenkt und auch die Konsequenzen, wie Sie jetzt soeben gesagt haben. Ein schlimmes Beispiel sind die Archivverhandlungen zwischen Jugoslawien und Österreich, die heute noch nicht zu Ende sind, obwohl auf beiden Seiten schon viel ausgetauscht worden ist. Im Vorvertrag hat man unglücklicherweise sowohl das Pertinenz- als auch das Provenienzprinzip hineingenommen. Somit kann also jeder alles verlangen und nichts mehr geben. Es ist unmöglich. Die Politiker, und in dem Fall hat man es zum Teil mit Persönlichkeiten zu tun, die mehr dem orientalischen Handel verpflichtet sind als europäischen Gepflogenheiten, die handeln einfach aus Wirtschaftsabkommen gegen dieses Kulturgut und so weiter. Und der Archivar soll dann nachkommen. Wir haben gerade da einige Dinge hergegeben, hat Österreich hergegeben, übrigens mit Konsens des Ministeriums in Rom, auf die ich grundfalsch halte herzugeben. Das waren Urbare aus dem seinerzeitigen Görzer Archiv, die Jugoslawen beansprucht haben und wo am Schluss die österreichische Regierung gesagt hat, die interessieren uns nicht, die betreffen der Götz, und die sind hergegeben worden. Zwei dieser Urbare betreffen eindeutig Gebiete, die heute in Jugoslawien sind. Eines betrifft etwas, was ausschließlich in Italien ist, nach der heutigen Grenze, und die übrigen haben eben das Unglück, dass sie die heutige Staatsgrenze nicht berücksichtigt haben bei der Anlegung des Urbars. Also solche Dinge sind meines Erachtens grundfalsch. Es hat in dem Fall das Außenministerium in Rom kein Bedenken dagegen gehabt. Es hätte vielleicht eines gehabt, wenn das Stichwort Trieste drin gewesen wäre. Aber für Urbar aus der Zeit, ach Gott. Sì, questo problema è pericolo, esiste anche per certi Urbari di Bressanone in Slovenia. Sì, sono Urbari di questi possedimenti del vescovo di Bressanone a Felde, Splet, sì. È un bel Urbarium. Ja, auch da die lokal geführten Urbari. Die sind an Jugoslawien übergeben worden, das ist ganz klar. Meglio non parlare troppo. Aber was in der Zentrale, in Brixen geführt worden ist, das hatte nie nach Slowenien gehört. Dottor Ortolani conclude la discussione, ma con tutto il tempo, cioè anche, non abbiamo strozzatura. Praticamente anche sono andato un po' in pallone con altre questioni che mi hanno posto. Comunque io volevo fare delle brevissime proprio considerazioni, soprattutto di carattere pratico, e per la soluzione di questi problemi che il professor Reinert ci ha illustrati. E io devo dire, sono d'accordo con il professor Cusini, ma anche con il professor Rainer e con il professor Deore, cioè sul fatto io non credo molto a questa diciamo, iniziativa dell'UNESCO assolutissimamente, né oggi come oggi si può più parlare dopo il trattato di pace di Saint Germain, che prevedeva appunto, voi sapete benissimo, l'articolo 93, la restituzione, si possa ancora parlare di rivendicazioni. Secondo me la strada, la politica migliore, la strada da seguire sarebbe quella che noi, e qui c'è il professor Deore che è il rappresentante insieme al dottor Messi, al dottor Cristiano Doria, di quel comitato nell'ambito dell'Arche Alpe che si occupa degli archivi, l'animatore direi il professor Deore anzi. E cioè la nostra, diciamo, la soluzione, lasciamo stare adesso queste restituzioni che io non lo so, insomma, non mi sembra proprio che non sia il caso di parlare, cioè di attuare una politica un po' più tranquilla, come diceva il professor Prodi, insomma di pace, di distensione, cioè soprattutto appunto di operare, di fare quello scambio che abbiamo proposto di seguire, cioè il programma del Larghe Alpe. E io ho portato, vi leggerò brevemente anche la parola, ho illustrato questi nostri intendimenti anche in una brevissima relazione che ho fatto ultimamente a Londra, dove io dicevo appunto che un'ampia informazione dovrebbe aiutare le popolazioni ad imparare e comprendere meglio i problemi di confine. Il processo di integrazione deve partire dalle regioni di confine e siamo sulla buona strada con l'istituzione del Larghe Alpe, comunità di lavoro delle regioni alpine, che comprende oltre alle province autonome di Trento e Bolzano, il Tirolo, Salisburgo, Vorarlberghe, la Baviera, il Cantone Svizzera delle regioni e la Lombardia, che permetterà una più ampia collaborazione culturale, scambi di inventari, registi e microfilm. Questo mi sembra molto molto importante, con la considerazione che la base del lavoro comune deve essere l'informazione reciproca e per la prima volta dopo molti decenni i confini statali entro la ARGAL non sono più barriere al passaggio di informazione e conseguente valorizzazione e migliore fruizione del materiale archivistico. E infine pensiamo alla collaborazione che si sta progressivamente avviando fra le regioni alpine nel quadro del comitato di iniziativa, questo è recente, per la collaborazione fra le regioni dell'arco alpino e numerose altre iniziative, ultima delle quali è l'Alpe Adria, che è nata, sarà una nostra sorella, comunità di lavoro fra le regioni dell'arco alpino orientale che intende stabilire legami più concreti fra Friuli, Venezia Giulia, Carinzia, Austria Superiore, Stiria, Slovenia, Croazia e come osservatrici Baviera e Salisburgo. Tutte iniziative che indicano sempre maggiormente riconosciuta la necessità di una cooperazione interregionale e trasfrontaliera. Al di là di un discorso astratto sull'Europa, che in qualche caso può essere anche retorico, queste forme di collaborazione sono il riferimento concreto di un'Europa che si costruisce. Che si costruisce dal basso, a partire da situazioni e problemi concreti. Esse sono anche il segno della fiducia che le regioni hanno nella dimensione sovranazionale, nella dimensione europea. Ecco, perciò io dico appunto che secondo me brevemente l'unico sistema sarebbe quello di continuare, speriamo di raccogliere presto i frutti, va bene, di questa collaborazione per poter avere uno scambio di questi inventari, di questi atti che ancora, lasciamo stare il perché e il come, si trovano soprattutto per quanto riguarda il Trentino in Austria. E poi il discorso che faceva il professor Corsini, e lui è spaventato, in effetti ha ragione del fatto di questa iniziativa dell'UNESCO, ma anche ho visto che siamo tutti d'accordo sulla non applicabilità, o non so come, del principio della territorialità e provenienza. È un discorso veramente, un problema grossissimo questo qui, guardate che non si può, non lo so, ecco. L'unica, secondo me, finisco e concludo, l'unica strada è quella appunto della collaborazione che noi abbiamo iniziato e speriamo di raccogliere questi frutti, di fare questo scambio per avere appunto, per permettere agli studiosi finalmente di studiare anche tutta la documentazione che c'è all'estero, anche lì nel paese d'origine, Vorrei fare un ringraziamento, che entra, no, due parole soltanto. Colgo l'occasione che è qui presente il direttore dell'archivio di Icicolo, per sottolineare il fatto che da parecchi anni, ma adesso sempre più, ogni volta in cui si affronta un tema specialmente di storia trentina, è inevitabile che bisogna, oltre che agli archivi, ovvero un grosso archivio di Vienna, bisogna rivolgersi all'archivio di Innsbruck, non c'è più il professor di Giardini, benvenuti, però il quale più di una volta ha avuto dirette relazioni personali, anche per il visto con il professor Derer, io stesso mi sono rivolto a Venerero in alcuni casi, e abbiamo sempre trovato una facilità di accoglimento dei nostri desiderata, anche una rapidità, va bene, perché a volte è importante anche quello, ecco, che veramente è testimonianza che ormai si è creato questo clima di collaborazione sul piano scientifico che dà, sono convinto, molti frutti positivi dal punto di vista del lavoro, ma anche dà molta soddisfazione dal punto di vista del sentimento umano. E io ringrazio qui il professor Tero come direttore dell'archivio di Innsbruck per questa sua disponibilità. C'entra con quello che ho detto, ma dovevo dirlo. C'entra sì. C'entra sì, io aggiungo solo questo, che il dottor Dörer si deve preparare a vedere sempre più un afflusso al suo archivio da Trento, credo, i prossimi anni. Voglio dire, lo ringraziamo, ma lo avvisiamo che arriva l'altra gente. Danke dir wohl und ich wäre gerne in diesem Sinn wirken. Ich habe aber noch eine andere Frage, die bisher überhaupt nicht zur Sprache gebracht worden ist und die nicht von geringer Bedeutung ist, wenn sie auch vielleicht noch nicht so gesehen wird. Es, in vielen Staaten der Welt wird die Reprivatisierung von öffentlichem Kulturgut als strenges Delikt bestraft. Es in allen Kulturstaaten wird die Aneignung, die gewaltsame Aneignung als Delikt bestraft. Wir haben aber in allen Kriegen Situationen, dass solche Fälle vorgekommen sind. Und zwar nicht immer im bösen Willen. Ich erinnere mich von einer Situation in einem französischen Schloss, wo ein Offizier die Bibliothek geborgen hat. Gegen seine Befehlung, gegen alles. Ne? Sie ist dann an einer Stelle deponiert worden, wo sie legal nicht hingehört hätte. Und nun gibt es auch heute, 30 Jahre nach dem Krieg, einzelne Dokumente, aber auch ganze Bestände, die irgendwo liegen und der betreffende Eigentümer wäre bereit, es herauszugeben. Aber er will natürlich nicht ins Gefängnis und er will nicht bestraft werden. Und ich glaube, auf dieses Problem sollten wir Fachleute, die Politiker hinweisen. Ich würde sagen, wenn das Gut nur herauskommt, man soll da eine Generalamnestie und was immer machen, denn es ist viel schlimmer, es bleibt irgendwo versteckt, als es kommt heraus, halt nur gut 30 Jahre später, aber es sollte herauskommen. Ich weiß mehrere solche Fälle von solchem Kulturgut, und zwar nicht nur unsere beiden Staaten betreffend, auch andere, wo der Eigentümer es brennend gern herausgeben könnte, aber er kann es ja nicht einmal auf die Post geben, denn dann ist der Absender erkenntlich. Verstanden. Ich glaube, da müsste man die Politiker aufmerksam machen, man soll eine Amnestie da schaffen. Das weiß Gott. Da gibt es ja den Beichtstuhl noch, ne? War una confessione, sì. Grazie a tutti e continuiamo a parlarne in sede conviviale. Qui ci sono, credo, automobili sufficienti per poter andare insieme tutti su senza. È pratico, no? Su a destra, sì. Ma andiamo tutti insieme. Was was der Eigentümer und der Verbraucher gern zurückgeben wird, aber er ist eben gekauft worden, dass er außerhalb des Daniels verbraucht hat, wobei er es. Warte, da muss aber der Schlüssel trinken, das die ganze Zeit in die Stadt. Jetzt hast du den Schlüssel schon mal. Es ist damals